insomma, dell'Ottocento. Ecco, in questi studi appunto ha preso sempre più spicco l'interesse per Ignazio von Zellinger e direi, mi permetto soltanto di presentare a peso il nome della corrispondenza tra Ignazio von Zellinger e Lord Acton, i tre volumi che il professore Consenius ha edito con grossa competenza e intorno a cui ha fatto ruotare numerosi altri studi. Ma appunto lascio subito la parola a lui. Un'ultima cosa è per dire alcune persone che non hanno potuto venire e che hanno scritto pregando di portare al professor Consenius i loro saluti. Sono il professor Franco Venturi, Francesco Mazzotta Broglio, Gambasini invece dovrebbe, professor Gambasini dovrebbe arrivare da Padova, perché mi scrive che arrivava alla mattina da Padova. Gli avevo chiesto se dovevamo prenotare la camera, ma insomma, ecco, professor Campanini e il professor Eberhard Weiss di Monaco. Queste sono le lettere che sono venute un po' tempo. La lettera doveva venire e avevamo già appunto anche pensato alla studenza, ma sua moglie è stata infortunata negli scalini dell'Università di Innsbruck e quindi ha dovuto subire un piccolo intervento sternato. Ah sì, ecco. Questa è difficile pronuncia che mi preoccupa. Avrebbe potuto indicare la donna che era mia discepola di Irlanda e Irlanda. Difatti volevo, no, l'ho detto proprio perché volevano venire tutte e due, ma purtroppo c'è stato questo incidente e la signora Strunat ha dovuto subire un intervento. La signora che sta poco bene, per cui proprio dobbiamo portare i saluti e... Pensate che Strunat adesso, no? No, è lui, è la signora, che ha avuto questi incidenti. Ecco, basta, esauriti questi compiti, allora passiamo ai lavori. Io penso che ci possa essere una prima parte, dicevamo prima col professore Consenius, dedicata a, in generale a Zellinger e Zellinger e l'Italia, no? Quindi ci sarà un'introduzione del professor Consenius e poi interventi, domande, discussioni su questi temi più generali, biografici e italo-tedeschi, insomma, in qualche modo. E poi dopo invece una seconda relazione sul tema specifico di Zellinger e il movimento ecumenico, insomma, in modo da avere una seconda parte del seminario, diciamo, più specializzata, insomma, in qualche modo, su questa tematica. Se loro sono d'accordo, allora... Ecco, ringrazio ancora il professor cominciamo la relazione. Sì, dovrebbe essere aperta la registrazione perché c'è il nostro super revisore generale delle apparecchiature là in fondo. Ecco, professor Consenius, a lei la parola e la direzione. Signore. Voglio ringraziare il professor Prodi per questa invitazione di parlare davanti a un circolo tanto illustro. Mi aveva parlato di studenti, io mi sono preparato per studenti, non ho saputo che avrei l'onore di avere delle professore dei colleghi di università e di facoltà, e per questo ho un poco paura che la mia relazione che si è fatto verso studenti e con un italiano tedeschizzante non corretto, non corrisponde forse a quello che voi aspettate, e per questo sarei contento se le discussioni dopo forse fanno una compensazione di quello che io non posso dare per mancanza di vocabolario un poco primitivo. Voi abbiate sul una cronologia della vita di che abbiate visto. Lo storico della Chiesa in Assangenia è ricordato oggi nell'ambiente storico e teologico per la sua opposizione contro le definizioni del Concilio Vaticano I. Talvolta è considerato come l'iniziatore del scisma dei vecchi cattolici che respingevano il dogma dell'infallibilità. E per la maggioranza si può dire che già sia tutta che si riconosce generalmente di lui. Ma questa rappresentazione schematica della figura di Geminger presenta un'immagine inesatta e piena di lacune. Sì, è vero che tutta la nostra memoria di storici consiste di lacune più o meno grandi e che è impossibile di memorare tutto, vogliamo in quest'ora lasciare dietro di noi quello schema e domandarci come si faceva che Geminger, chiamato nel suo tempo, prima parte della vita, l'Ajax dell'ultramontanismo, si sia mutato non in un nemico della Chiesa, però che ha preso una posizione teologica che gli attirava la scomunica dell'arcivescovo di Monaco in aprile 1871. A quel momento non fu più un giovane che seguiva le proprie idee quando fu colpito dalla censura ecclesiastica. In quel momento aveva più di 70 anni e una vita piena di dedicazione alla Chiesa romana dietro di sé. Perché non fu un teologo che si limitava alla cattedra universitaria? Fu fra 1850 fino a 70, si può dire, la figura centrale dell'ambiente accademico della vita del cattolicesimo tedesco. Geminger fu teologo politico non nel senso della teologia politica di oggi, ma piuttosto in quel senso che dava una orientazione politica ai cattolici tedeschi, meno verso una organizzazione centrale efficiente. Certo, c'erano anche gli altri elementi, l'influenza politica diretta ed indiretta come deputato al Parlamento bavarese, al Parlamento di Francoforte o al Senato di Baviera dopo 1878. Ma la sua influenza politica fu piuttosto sociologica, vale a dire che non è fondata su una interpretazione politica del Vangelo come oggi, nella teologia politica. Nella sua lunghissima vita si possono distinguere tre periodi. La prima, che va fino all'anno, diciamo, 1850, è quella di difensore apologetico della Chiesa. Difensore apologetico della Chiesa. Una seconda, di dedicazione critica alla Chiesa, 1850 fino a 70, 1850-70, e una terza distaccamento della Chiesa romana dopo di 70 fino alla morte. Noi seguiamo questa divisione perché ha il vantaggio di dare in forma concentrata un elemento tipico della sua vita per ciascuno periodo. Il primo periodo sarebbe il più lungo anche nella nostra esposizione. Ignaz von Döning, la nobilitazione è venuta più tardi con l'ordine San Michele di Baviera, non era nobile di nascita. Ignaz von Döning è nato a Bambergo nel 1799 in Franconia, una città vescovile, in una famiglia di medici e di servitori del principe vescovo. Già il nonno fu medico, il padre Ignaz Geninger, più tardi professore all'Università di Würzburg, fu uno dei primi anatomisti di Germania e propriamente uno dei fondatori della scienza dell'embriologia. Di reputazione internazionale. Non ci esiste un'indagine recente sulla sua gioventù e sulla sua formazione in quest'anno. Ci sono cenni autobiografici piuttosto sparsi, dei quali risulta che l'influenza religiosa veniva soprattutto dalla mamma. Il padre fu un uomo colto, non anticlericale o antireligioso, ma fu interessato piuttosto nella formazione intellettuale del ragazzo. Insisteva sullo studio delle lingue moderne fuori delle scuole dove si insegnava il greco e il latino. Si può dire che il ragazzo fu di ingegno precoce, primo nel greco, sempre nei libri, e a 10 anni già capace di leggere Corneille e Molière. Conta nelle sue note autobiografiche che a 16 anni aveva letto più libri in francese che in tedesco. Già in questo periodo si accenna un interesse letterario che rimane tipico tutta la sua vita e che divenne il suo rifugio dopo la sua rottura con la Chiesa. L'espressione forse è un poco strana, per Döning sarebbe strana, per il Döning direbbe che non ha rotto con la Chiesa, ma che la Chiesa ha rotto con lei. C'è il francese che conosce come una seconda lingua materna, più tardi si sopraggiungono l'inglese, l'italiano e lo spagnolo. Non so a che grado, fino a che grado possedeva l'italiano. Forse la signora Sara ci darà più tardi una spiegazione. Scriveva molto bene l'inglese, ma aveva un poco paura di parlarlo. Quando il ragazzo aveva circa 13 anni, i genitori si trasferivano a Würzburg, dove il padre divenne cattedratico di anatomia. Nella retrospettiva, il vecchio Döninger ritrae la sua orientazione verso la teologia di maniera seguente. E quando domandava come ragazzo delle spiegazioni sulle cose che toccavano ai problemi filosofici o teologici, il padre aveva costume di rispondere: questo io non so, questo non si sa. Allora si sarebbe affermata nel ragazzo l'idea che i preti avrebbero le ultime spiegazioni del mistero della vita. Facendosi prete si diceva che capirebbe molte cose e forse potrebbe dare delle risposte alla mamma. Così non avrebbe pensato a nient'altro che a studiare teologia e a farsi prete. Questa determinazione incontrava a casa l'opposizione del padre. Il padre voleva che il ragazzo studiasse altra cosa, almeno che non si orienterebbe direttamente verso la teologia. Per un anno il ragazzo studiava un poco pêle-mêle all'università di Würzburg, ma dopo aveva passaggio libero per la teologia. Si immatricolava allora alla facoltà di teologia della stessa università dove insegnava il padre. In generale si può dire che non fu tanto l'insegnamento dei professori che lo formava che quello che imparava da se stesso, in selbststudio. Non fu l'allievo di un maestro che l'avrebbe marcato decisivamente. Tra i professori si potrebbe ricordare un Friedrich Brenner di Bambergo che sottolineava l'importanza dell'antichità cristiana. In questo momento si può anche attirare l'attenzione sul fatto che il Dellinger non ha mai fondato una scuola propria, nel senso propria, nel proprio. Il 22 di aprile 1822 Dellinger riceve l'ordinazione sacerdotale nella cappella privata del vescovo di Würzburg. La sua vocazione si può dire fu autentica. Nel suo cammino verso il sacerdozio ci fu nessun elemento drammatico, nessuna critica di fede e nessun calcolo di carriera ecclesiastica o accademica. Quello che voleva fu un posto di vicario alla campagna dove si potrebbe vacare ai suoi studi. Questo sonno si realizzava, ma non per molto tempo. Già un anno dopo, fine 1823, fu nominato professore di storia della Chiesa e di diritto canonico al liceo di Aschaffenburg. Infatti, arriva a insegnare negli inizi, oltre la storia della Chiesa e il diritto canonico, la dogmatica e dare ancora dei corsi di religione nelle classi superiori del ginnasio. In questo periodo cade la pubblicazione della sua tesi di laurea, che fu accettata come tale dall'università di Landshut in Baviera. Aveva come titolo La dottrina dell'Eucaristia nelle tre primi secoli. Saggio storico-teologico. Si può dire che questa dissertazione fu scritta con una determinata intenzione di ritrovare nella tradizione dei padri l'insegnamento della Chiesa e del suo tempo sull'Eucaristia. A proposito di questo libro si può parlare di un classicismo teologico non soltanto nel senso che il periodo dell'antichità cristiana ha un carattere normativo, ma che la dottrina della Chiesa è in se stessa invariabile. Cum grano salis, ma questo è esagerato, io direi, si ritrovano qui gli elementi dell'argomentazione del periodo Vaticano che la Chiesa non può fare creare dei nuovi dogmi. Ma non si deve immaginare che il giovane prete già nutriva nel suo cuore una posizione teologica eresi proxima. Lo scopo del suo primo scritto sulla difesa della dottrina classica cattolica è diretta contro l'innovazione dei protestanti. Si incontra nel Dellinger di questo periodo un'accettazione globale della Chiesa, delle sue strutture, delle sue faccende, delle sue dottrine. Rendere servizio alla Chiesa, difenderla contro i protestanti, ristabilire la sua influenza, il suo rispetto negli ambienti intellettuali dopo la secolarizzazione, dopo questa grande perdita dell'influenza della Chiesa Cattolica, dopo il congresso di Vienna, tale lo spirito che anima il giovane professore. È importante di tenere in mente che Deringer, fino alla morte del suo collega Möller, ritiene l'insegnamento della dogmatica e che c'è sempre una preoccupazione dogmatica nella sua indagine di storico. Una seconda osservazione si impone: questa opera sull'Eucaristia rimane in qualche sorte, per 20 anni un'opera teologica maggiore, io direi, fino ai 3 volumi sulla Riforma in 46-48. Il terzo elemento che importa per questo periodo è la sua orientazione verso un cattolicesimo combattivo, conscio di se stesso. Quando arriva in 1826 a Monaco, è l'anno nel quale il re Lodovico I trasferisce l'università di Landshut nella sua residenza di Monaco, trova qui a Monaco questo programma di adoperarsi per la Chiesa. Questo programma diviene una realtà, una specie di cooperazione con altri. Dal punto di vista teologico, il fattore più importante è la collaborazione col collega Johann Adam Möller, suo anziano di 3 anni. Deringer subisce l'influenza di Möller, il quale gli comunica l'idea della concezione organica della Chiesa, la Chiesa come realtà sociologica e spirituale, una cosa organica, ma subisce anche l'influenza di laici. Pur essendo buoni cattolici, sono talvolta meno ortodossi nelle loro viste teologiche. C'è il vecchio Joseph von Goebbels, rivoluzionario e giacobino nella sua gioventù, polemista contro Napoleone e uomo di fede appassionato nella terza parte della sua vita per lo studio della mistica. C'è Franz von Baader, ingegnere di miniera e filosofo, che aveva delle idee speciali sulla riunione della Chiesa romana e della Chiesa ortodossa. Franz von Baader è anche un filosofo un po' eterodosso, si può dire eterodosso anche nel senso eclettico, che è difficile di postare in una niche, e anche aveva delle visioni speciali. È anche il primo che ha formato, almeno nel, pare che il primo che ha usato, fatto uso del termine di proletaire, e ha visto e ha voluto che il prete degli anni 30, che il prete si occupano della questione sociale che aveva veduto venire nel suo soggiorno in Inghilterra come ingegnere in Inghilterra. Un uomo molto interessante. Il salone di Goebbels, con le sue riunioni settimanali, diventava la fonte di ispirazione principale del giovane professore. Collabora alla rivista Eros, che dovrebbe rappresentare nella sua mente come l'aurora di un nuovo cattolicesimo di restaurazione con una visione di alleanze europee. Döllinger ha imparato molto del vecchio maestro Goertz, la lotta per la libertà della Chiesa, la passione per la polemica e l'apertura del suo cattolicesimo per i problemi del tempo. Questa apertura si mostra su due livelli differenti. Primo, nei numerosi articoli, recensioni di libri e articoli sulla situazione religiosa in diversi paesi di Europa e di America, soprattutto la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, gli Stati Uniti e la Russia, pubblicazione di Döllinger. Fra le pubblicazioni recensite qui conviene nominare soprattutto i libri di Lamennais e dei suoi discepoli, del Gerbet e del famoso barone d'Eckstein. Quello che colpisce, che mi ha colpito nella bibliografia, è che c'è nessun libro italiano che sarebbe discusso in questo periodo della plume di Döllinger. Gli aspetti che le interessavano in quel periodo sono la libertà della Chiesa esposta all'usurpazione degli stati, della burocrazia e la ripresa della vita religione, dell'intensità della vita religiosa nei diversi paesi. Questo è il primo livello. C'è un secondo livello. In questo periodo Döllinger pone i fondamenti per le sue vaste conoscenze del cattolicesimo europeo e le sue amicizie. Una delle amicizie le più durabili di quel tempo fu quella col Montalembert. Essa va a durare fino alla morte dello storico, dello pubblicista francese, nell'anno del concilio. Ma c'è anche l'amicizia importante col barone d'Eckstein, fondatore, se volete, del cattolicesimo liberale e corrispondente del giornale di Cotta, giornale tedesco, corrispondente per la Francia, per un periodo di 20-25 anni, il giornale più importante in Germania del tempo, l'Augsburger Allgemeine. C'era anche l'amicizia con Alexis Francis Rio, storico dell'arte, un poco più tardi quella col Menesien, Louis-Charles-Henri Marais, professore alla facoltà teologica della Sorbonne, dove esisteva ancora a quel tempo una facoltà di teologia, e anche un poco più tardi quella col Dupont-Loup. Ambedue nel periodo del concilio opponenti alla definizione dell'infallibilità, ma per ragioni diverse. Più tardi viene l'amicizia con altre personalità, con i discepoli, Adolfo Kolping, fondatore delle società Kolping, ancora esistente oggi, con Sir John Acton, il discepolo di predilezione, il fondatore della Cambridge Modern History, con lo storico portoghese Herculano, con i convertiti del movimento d'Oxford, che non mancavano di visitare a Monaco quando visitavano il continente. Talvolta Döllinger è rappresentato come uomo austero, senza amici, e come uomo esclusivamente di libri. Questo non è vero. Fu un uomo aperto, molto dedicato ai suoi amici e capace ancora all'età di 66 anni di stabilire una bellissima amicizia con la giovane contessa Charlotte di Leiden, la biografa di Madame de Staël e la prima donna a ricevere un dottorato honoris causa dell'Università di Monaco in Baviera per la sua grande biografia in tre volumi su Madame de Staël. Io sto preparando, già è preparato e aspetto giornalmente la pubblicazione di un grande volume di lettere di Dillinger e di Lady Blennerhassett, come si chiamava, con nome di donna. C'erano anche amici protestanti, c'era l'amicizia col poeta August Graf Plattenhalermund, con il riformatore sociale protestante Victor Emil Huber e soprattutto un'amicizia importante, l'amicizia con lo scrittore e uomo politico inglese William Ewart Gladstone, l'uomo politico, ministro di Stato d'Inghilterra molto conosciuto. Torniamo a questa relazione, forse quando, questo pomeriggio, parlando più in particolare di Dillinger come comunista. Basta in questo momento di ricordare che Dillinger aveva una capacità più che ordinaria di farsi delle relazioni in ambienti diversi, soprattutto in quelli che erano animati delle stesse idee, diciamo, di un cattolicesimo capace di diventare una forza di rigenerazione spirituale in Europa. C'è tuttavia un'assenza cospicua nel suo epistolario, in quanto posso constatare non ci sono state relazioni di stessa cordialità con gli italiani, al mio parere. Ci sono specialisti qui che possono darci più informazioni su questo dopo. C'è stato un cambio di lettere più o meno occasionale con Gino Caponi, con certi italiani, ricordo soltanto il Trentino Giovanni a Prato, sul quale Nicoletta Cavaletti, che ricorda adesso con affetto, ha fatto la sua dissertazione. Ma non c'era qualcosa di continuo, fu abbastanza ben informato degli avvenimenti in Italia, soprattutto di quelli che toccava lo Stato Pontificio. Abbiamo abbandonato adesso un poco l'ordine cronologico per sottolineare la sociabilità di Dillinger, la sua fama crescente come pubblicista e giornalista cattolico. Non entriamo qui nell'argomento delle opinioni di Dillinger sul protestantesimo. Quella fu negativo fino all'inizio degli anni 60. Siamo ancora nel periodo del suo cattolicesimo che bastava a se stesso e che criticava il protestantesimo per le sue divisioni teologiche, per la debolezza della sua posizione religiosa. In 43 c'era l'affare dell'ordine del re sulla genuflessione dei soldati protestanti nella processione del Corpus Domini. Il re di Baviera, Ludovico I, era stato una volta in Alger, aveva visto allora la processione Corpus Domini e come i soldati, gli arabi anche, dovevano fare la genuflessione quando passava il Santissimo, e come esercizio militare questo gli aveva piaciuto, ma in Baviera aveva molti protestanti nei suoi contingenti di armée, di esercito. Allora ha introdotto un ordine che anche i protestanti dovevano inginocchiarsi. In un scritto anonimo Dillinger difendeva l'ordine di inginocchiarsi come regolamento militare, senza tenere conto che questa fu una imposizione alla coscienza dei protestanti. Si attirava allora la polemica, la reputazione di polemista cattolica negli ambienti protestanti. Ci fu un cambio di pubblicazione di polemiche e si attirava una appreciazione che si corroborava ancora con gli anni. Nel 48 il poeta Heinrich Heine pubblicava un poema satirico su quel chieruccio in Monaco di Baviera che sarebbe il più oscuro degli viri oscuri. È un poco terribile, io non so se lo posso leggere in tedesco. Sì. Tod ist Görres. Görres è morto l'anno passato. Tod ist Görres die Hyäne, ob des heiligen Offiz umsturz, quoll ihm einst die Träne aus des Auges rotem Schlitz. Dieses Raubtier hat ein Söhnchen hinterlassen, doch es ist nur ein giftiges Kaninchen, welches Nonnenfürstchen frisst. Apropos, der erzinfame Pfaffe Dolingerius, das ist ungefähr sein Name, lebt er noch am Isarfluss. Dieser bleibt mir unvergesslich bei dem reinen Sonnenlicht. Niemals schaut ich solch ein hässlich arme Sünder angesicht. Wie es heißt, ist er gekommen auf die Welt gar wundersam, hat den Afterweg genommen zu der Mutter Schreck und Scham. Sein am Karfreitag wallen in den Zug der Prozession von den dunklen Männern allen wohl die dunkelste Person. Ja, Monaco Monacorum ist in unserer Zeit der Sitz der Virorum Obscurorum, die verherrlicht Huttens Witz. Questo poema satirico che facevi di Döllinger, il protagonista dell'oscurantismo, fu una vendetta di Heine per gli articoli che Döllinger aveva scritto 20 anni fa contro di lui nella rivista EOS. È vero che l'EOS durava soltanto 4 anni e che il tono dopo del mensile Historisch Politische Blätter, sul quale Döllinger aveva molto influenza, fu molto più moderato. Ricordiamo che c'è un cambio nel clima delle relazioni confessionali in questo tempo. C'è l'avvenimento di Colonia in 1836, l'incarcerazione dell'arcivescovo Clemens Drost Fischering con la tensione fra Stato prussiano e Chiesa cattolica, e nello stesso tempo una coscienziazione dei cattolici che raggiunge il suo apice nel 48. L'anno della rivoluzione mancata in Germania è anche l'anno del culmine di Döllinger come fautore del cattolicesimo tedesco. Parecchi avvenimenti l'avevano preparato ad assumere questo ruolo. C'erano venuti i primi onori accademici ed ecclesiastici. In 1945 rettore dell'università, nello stesso anno deputato dell'università nella Camera dei Deputati di Baviera, nel Ständekammer, e in 1947 la nomina di provosto di San Cayetano, un posto onorifico che fu dovuto alla favore del re. Ma nello stesso anno Döllinger conosceva anche il disfavore del re. Nel mese di agosto fu trasferito all'Accademia di Dillingen, praticamente una destituzione. Che cosa era accaduto? Nel mese di ottobre 1946 si era stabilito una ballerina a Monaco di nome Lola Montes, un nome spagnolo, e aveva trovato, non so come, il favore del re sessantenne e cercava con molti intrighi a farsi accettare nella cosiddetta buona società di Monaco, ma incontrava soltanto indifferenza e disprezzo. Pensava che questa reazione fu ispirata dai visigoti e riusciva a prevenire ispirata dai gesuiti riusciva a prevenire il re contro l'ambiente cattolico li ultracattolici, come il re in questo tempo li chiamava, perché aveva voluto fare anche di monaco, un centro del cattolicismo, ma adesso sull'ispirazione di Lola Montezza allora ha cambiato di idee. Le conseguenze furono grave: demissione del governo bavarese, destituzione di tutti i professori del circolo di Göre, un trasferimento di questi professori a Dillingen, cambiamento nei posti più alti dell'amministrazione e agitazione fra gli studenti che non prendevano il partito per la bellezza un poco strana, ma prendevano posizione contro l'avventuriera per i loro professori. In 48 la situazione degenerava in tumulti che finivano col rinvio della ballerina fatta con contessa di Landsberg e con l'abdicazione del re. I professori furono riabilitati. L'episodio aveva contribuito ad aumentare la loro reputazione in tutta la Germania. E Dellinger dicevano allora, che io non so se è storico o no, ma in Monaco faceva la corsa un detto su Dellinger, che Dellinger aveva detto al re che fu un scandalo per lui di avere questa ballerina. La ballerina non era spagnola di nome, come il nome suggerisce, ma era una irlandese. Aveva i capelli molto neri, e io ho insegnato in Irlanda per 3 anni. C'è una parte di Irlanda dove la popolazione è piuttosto nera, perché una parte dell'armata è venuto sul litorale di questa regione, e io penso che veniva di lì, di questa regione. Qualche frutto ha fatto. E allora a Monaco dicevano che il re avrebbe risposto alle rimostranze dell'Inga: bleib tu bei deiner Stola und ich bei meiner Lola. Questo fu importante per Dellinger, che fu eletto deputato nel Parlamento di Francoforte. Col generale Radovitz diviene uno dei capi del club dei cattolici. Fra i suoi interventi c'è una riflessione sui diritti fondamentali dei tedeschi, un discorso sulla questione polacca. Nello stesso anno fu tenuto a Würzburg la prima assemblea dell'episcopato tedesco. Dellinger fu invitato a partecipare come esperto e parlava in favore di una chiesa nazionale e di un concilio nazionale, ma anche per una pacificazione delle confessioni in Germania. Il vocabolo nazionale dà sospetto agli orecchi romani, lo dava, forse lo dà ancora, della curia romana, perché era sottinteso un legame con le idee di una chiesa nazionale nel Settecento, col Fibronius, eccetera. Ma nel pensiero di Dellinger a quest'epoca, io direi anche più tardi, non ci fu niente di scismatico. Lo che intendeva fu una migliore organizzazione e collaborazione delle diverse diocesi per acquistare una migliore effettività. L'inserzione di questa Chiesa nazionale nella gerarchia cattolica andava di sé, fu una condizione sine qua non per Dellinger. E i vescovi apprezzavano maggioranza le idee del professore di Monaco, ma più tardi ufficiali curiali si ricorderanno che già in 48 quelle Dellinger aveva avanzato delle idee pericolose e legavano la sua posizione di 70 con gli antecedenti di Würzburg. C'era nessuna connessione di tal genere, e la migliore prova era che Dellinger fu invitato l'anno dopo a parlare come oratore principale alle assemblee generali delle associazioni cattoliche di Germania, a Ratisbon e a Linz. La sua ortodossia era insospetta a quel momento. 48, 49 è certamente l'apice della notorietà di Döring in Germania in questo periodo. In un certo modo si potrebbe dire che prende adesso la successione di Goebbels come figura di integrazione del cattolicesimo tedesco. No, questo è sul primo periodo della sua vita. Veniamo al secondo periodo, che è meno lungo anche nella mia esposizione, e che il terzo sarà anche nella mia esposizione più breve. Nel secondo periodo della sua vita abbiamo le opere scientifiche le più notevoli di Derrida. Sono tre specialmente. In 1953 Ippolito Calisto, una indagine sui filosofumena, un manoscritto scoperto 10 anni fa nel Monte Athos. In questo libro attribuava la paternità di quel scritto allo scrittore ecclesiastico e all'antipapa Ippolito, una ipotesi che fu seguita dalla maggioranza degli autori. Questo fu seguito in 1957 di un volume Cristianesimo e Giudaismo come atrio della storia del cristianesimo. Si presentava come primo volume di una storia non sistematica della Chiesa, che interpretava le religioni pagane e ebree come preparatio evangelica. In 1961 pubblicava un altro volume col titolo Cristianesimo e Giudaismo nel tempo della fondazione. Si può dire che quest'ultima opera non integrava tutte le ricerche delle esegeti protestanti, ma fu considerata dai cattolici come un capolavoro di teologia biblica. La tradizione inglese gli conciliava la stima di teologi anglicani. Il primato della Santa Sede è affermato qui senza restrizione. Nella seconda edizione, un anno prima del concilio, le affermazioni papalistiche sono attenuate. Questo è l'ultimo dell'opera maggiore di Döring. Il Janus, o il Papa del Concilio, che pubblicava in 69, abbiate i titoli lì, non è un'opera maturata in processo normale, ma lì fu tolta piuttosto sulla pressione degli avvenimenti dell'epoca. Nessuna di quest'opera maggiore fu tradotta in italiano. Furono tradotti le favole del Medioevo intorno ai papi, un'opera interessante, 63 o 4, contenente degli studi sulla donazione costantina, la papessa Giovanna ed altri. Fu tradotto anche l'opera polemica del Janus, ma non sono sicuro, questo dovrebbe stabilire ancora, se fu tradotto un'opera molto discossa all'epoca, Chiesa e Chiese, il papato e lo Stato pontificio. No, ci sono stato il governo di Torino, aveva dell'interesse, ma non so. Avesse lo stesso governo che avesse sollecitato la traduzione, ma al di là di questa notizia però non si è andato. Non si è andato. No, io ho cercato dappertutto delle edizioni, ma non l'ha trovato, sì, non esiste. Acquistava con quest'opera, Chiesa e Chiesa, una reputazione internazionale andando di là degli ambienti ecclesiastici. E io dico qualche parola su quest'opera. All'origine di quest'opera sono due conferenze che teneva il 5 e il 9 aprile 61 alla sala dell'Odeon di Monaco. Una situazione dello Stato Pontificio che li preoccupava e voleva preparare l'opinione pubblica fra i cattolici alla trasformazione importante che che vedeva venire. In queste conferenze tracciava lo sviluppo dello Stato Pontificio dall'origine fino all'occupazione francese. In sostanza voleva affermare la perennità della Chiesa, la quale avrebbe vissuto 7 secoli senza potere temporale, che nel futuro potrebbe resistere anche senza questo dominio, divenuto un imbarazzo per la missione spirituale della Chiesa. Io lo cito, non so se abbiate una fotocopia di questo testo in tedesco. Tra le fotocopie distribuite, pagina, questo 88? No, prima, qua, 85, 85. No, 85 no, 88-89. Cioè. 85. Non fa niente, io cito in tedesco, io cito in... va bene. Was soll man, so wurde ich wiederholt gefragt, jenen Außenkirchlichen erwidern, welche mit triumphierendem Hohn auf die zahlreichen bischöflichen Kundgebungen hinweisen, denen der Kirchenstaat für wesentlich und unentbehrlich zum Bestand der Kirche erklärt wird. Ich beschloss also, die durch die Vorträge gebotene Gelegenheit zu benutzen, das Publikum auf die kommenden Dinge, die bereits ihren Schatten in die Gegenwart hineinwerfen, vorzubereiten. Und demnach war die Summe meiner Worte die: Möge niemand an der Kirche irre werden, wenn die weltliche Fürstengewalt des Papsttums, sei es zeitweilig, sei es für immer, verschwindet. Sie ist nicht Wesen, sondern Beigabe, nicht Zweck, sondern Mittel. Sie hat erst spät begonnen. Sie war früher etwas ganz anderes, als sie heute ist. Es lässt sich ein politischer Zustand in Europa denken, in welchem sie entbehrlich und dann nur noch eine hemmende Last wäre. L'agitazione fu grande dopo queste conferenze. Nunzio Chigi, furioso, lasciava la sala durante la prima conferenza. Il ministro di Francia a Monaco ricevette di Parigi l'ordine di telegrafiare la seconda conferenza immediatamente a Parigi. Un giornalista inglese, il corrispondente dell'Edinburgh Review, infermava a Londra che Döllinger avrebbe subito la comunica e che avrebbe revocato tutto lo che avrebbe detto. Questa affermazione non fu esatta. Non ci fu nessuna tentativa di sanzione ecclesiastiche prese contro di lei, ma piuttosto sussurdi in un certo ambiente cattolico che Döllinger si era occupato di una cosa che non lo guardava e che aspettava piuttosto la saggezza superiore del Santo Padre. Per prevenire queste insinuazioni di cattolici, Döllinger prese la decisione di pubblicare queste conferenze sulla forma di un libro. Abbiamo il libro qui, mi pare. In fretta scriveva un bilancio della situazione religiosa di Europa. Qua sotto questo. Dove è messo quello? No. Da spazio e questo è il punto. Kirchen. Scriveva un bilancio della situazione religiosa di Europa piuttosto panoramico, nella quale compariva il cattolicesimo con il protestantesimo e tracciava delle prospettive brillanti per il futuro della Chiesa romana. Insomma, fu un'opera di apologia, ma direi impregnata di una visione pentecostale della Chiesa, senza dare alternative concrete di politica. È in quest'opera che Döllinger si è occupato il più direttamente e il più lungamente delle cose italiane, mi pare. Abbiamo letto le opere le più importanti che gravitavano attorno alla questione romana, da 1500 anni la sede apostolica forma il perno fra i quali torna la storia d'Italia. Questa sede è l'istituzione la più importante sulla penisola. È una tradizione. Su questo riposa l'equilibrio europeo, l'importanza dell'Italia. Ciascuno italiano pensante deve riconoscere che se l'Italia perderebbe la sede apostolica, avrebbe perduto il sole del suo firmamento. Ogni debilitazione del papato è tornata nello stesso tempo una umiliazione per l'Italia, che ha sempre preso parte alla grandezza e maestà della sede di San Pietro. Tutti i più italiani hanno capito questo. Balboa, Troia, Cantù, Galeotti non hanno parlato di maniera differente. Anche Ferrari lo considererebbe, se non fosse ritenuto per il suo fatalismo non cristiano. Fine della citazione. Non si può dire che questo giudizio fu rivoluzionario, irrispettoso delle tradizioni cattoliche, ma voleva stimolare una situazione politica che per disgrazia non veniva. C'è una compianta di un discepolo di Zellinger che aveva studiato a Monaco, che era divenuto arcivescovo di Bourges e si diventava più tardi cardinale, che Maignan, diceva: noi con la questione romana siamo come i napoletani, che quando uno vede l'altro sulla strada domanda: è fatto il miracolo. Il miracolo non viene qui. Prima della pubblicazione di questi libri si situa la prima e l'ultima visita di Zellinger a Roma in 57. C'era una visita qui in questa regione in 52. Il suo biografo Friedrich ha tendenza a rilevare i giudizi negativi di questa visita, ma io credo che questo fu una proiezione di un periodo posteriore. Fu molto negativamente impressionato, molto meno negativamente impressionato che un Lutero, un Lamme. Test sarebbe il giovane Sir John Acton, il discepolo di predilezione, che nota nel suo diario del viaggio, io cito: "Today the professor said he would have come to Rome long ago if he had foreseen that he would be received with so much kindness and liberality. That it had greatly surpassed his hopes and had surprised him very much." Non ci sono elementi di ribellione in questo saggio soggiorno. Non ci sono neanche nella conferenza di teologi tedeschi che riuniva Zellinger a Monaco 2 anni dopo, nel 63. Dopo 48 si erano affermate 2 scuole teologiche germaniche, l'una chiamata di Magonza, che favoriva la neoscolastica, la stretta collaborazione con la teologia umana, e l'altra rappresentata per Zellinger, ma non fu un capo di scuola, che favoriva piuttosto l'inserzione della teologia tedesca del pensiero storico e teologico tedesco. Zellinger anche in Germania, e ci sarebbe il dovere principale della teologia tedesca di collaborare a questo. Possiamo leggere il testo di questo convegno. Questo discorso ha trovato fino ad oggi delle interpretazioni diverse. Per qualcuno rifletta, per il signor Brandmüller, per esempio, una certa arroganza tedesca, ma questo io dico io, tipica per il mondo accademico tedesca, forse anche ecclesiastico, Io ho un giudizio un po' differente su questa conferenza, che il motivo principale non fu la denigrazione della teologia italiana, spagnola o francese, ma dimostrare che in Italia non si faceva buona teologia, citava Cantù in quel tempo, e che l'ultimo buon teologo che l'Italia avrebbe avuto sarebbe stato il muratore. Ma io dico che non fu la denigrazione della teologia italiana, spagnola e francese, ma l'argomento, lo scopo della sua conferenza fu di stimolare i teologi tedeschi, cattolici, a collaborare per pervenire ad un dialogo irenico con i protestanti, per vincere ultimamente le divisioni fra cristiani. E si dovrebbe tenere conto del carattere e una della sua del suo discorso, era una cosa retorica e non fu un studio allora che uno studio in profondità. Allora possiamo discutere di questo, ma c'è nessun dubbio che fu male accettato a Roma. La civiltà cattolica lo accusava di niente capire al dogma cattolico e di dare una posizione esagerata all'importanza della storia. In certo ambienti Delega non fu più considerato come teologo serio, sicuro, benché la maggioranza dei cattolici gli conservava la sua stima. Ed anche, si può dire, per la prima volta, extra ambitum propria confessionis, acquistava una reputazione di teologo cattolico capace del dialogo. Molto importante per questo cambio, ricordiamo che fu l'autore di un libro sulla riformazione del Cinquecento che intendeva rifiutare per le testimonianze negativi dei protagonisti del movimento protestante. Importante per questo fu l'incontro con storici protestanti nella Commissione Storica di Baviera fondata dal re Massimiliano, dell'incontro con Siebel, con Ranke per esempio. Dall'altro lato, l'alienazione di Dellinger alla politica ufficiale della Chiesa romana avanzava a gran passo. C'era il Syllabus di 64, c'era la canonizzazione dell'Inquisizione dell'inquisitore spagnolo Pedro de Arguez, che fu considerato come la canonizzazione dell'Inquisizione stessa, una rimessa in valore di questa Inquisizione. C'erano degli attacchi del Papa contro l'imperatore austriaco per la politica di scuola e l'introduzione del matrimonio civile. Dellinger pensava che nessun nemico della Chiesa non avrebbe potuto farla meglio per far male alla Chiesa. Insomma, in 69, alla vigilia del Concilio, troviamo un Dellinger molto depresso per l'avvenire della Chiesa e nel Concilio Vaticano. Non ha voluto andare a Roma, ma non ha ricevuto anche una invitazione. Comincia adesso la lotta di pubblicista per prevenire la promulgazione delle prerogative del Sommo Pontefice, pubblicazione degli Annus, degli articoli della Augsburg Allgemeine Zeitung, consultazione a Monaco con i vescovi francesi, con Marais, con Dupont-Loup, per formare un blocco di opposizione alle pretensioni romane, sforzo infruttuoso di guadagnare i governi europei ad una conferenza pubblica prealabile al Concilio e azione sistematica, quando il Concilio ha cominciato, di influenzare i vescovi per mezzo della presta liberale, di gettare il discredito sulle negazioni del Concilio. E in questo tempo scriveva con la collaborazione di Acton soprattutto le lettere romane nella Augsburg Allgemeine Zeitung. C'è la promulgazione del dogma, che Dellinger, per ragioni di coscienza, non può accettare. Il vescovo di Monaco ritorna di Roma. Quando Dellinger lo riceve alla stazione, il vescovo dica: combattiamo per la Chiesa, Dellinger risponde, per la vecchia Chiesa. Per che Chiesa, domanda Dellinger? Per la vecchia Chiesa, dove dice il Vescovo, allora Dellinger e Manuel hanno fatto una nuova, risponde Dellinger. C'è anche il Vescovo, l'Arcivescovo di Monaco, che lo scomunica il 14 di aprile 71. Dellinger ha descritto al suo amico Acton sua posizione dopo il concilio, non ha mai dato l'adesione formale e anche informale ai vecchi cattolici, perché la falsa dottrina dell'infallibilità non diviene dominante nella Chiesa e che più tardi potrebbe essere espulsa dalla Chiesa, bisogna che ci sia un gruppo di uomini che la rigetta con energia, ma non che si separerebbe dalla Chiesa. Questa è la sua posizione. È contro i vecchi cattolici, ma è contro anche la Chiesa romana. Contro i vecchi cattolici, lo che diceva, parola di San Agostino, reformatio fit inter ecclesia. E lo che dice dopo, annunzio di nunzio a Monaco in 47, quando il nunzio gli domanda di fare un piacere al cuore del Santo Padre per il suo giubileo, non so, ma in una lettera molto infortunata, direi. Allora gli scrive: moi aussi, je ne veux pas être membre d'une société schismatique, je suis isolé. E muore in isolazione il 10 di gennaio 1890, dopo aver ricevuto i sacramenti, gli ultimi sacramenti, dal suo discepolo, anche scomunicato, Friedrich, che scriverò dopo la sua biografia. La conclusione, dal punto di vista teologico, l'importanza di Dellinger rimane nell'ambito dei problemi che toccano punti nevralgici dell'ecclesiologia, critica della Chiesa, collegialità episcopale, vita sinodale, importanza delle Chiese locali, papato e i suoi doveri, principi dell'ecumenismo. Ci sono altri importanti elementi anche nel Dellinger: l'internazionalità, l'informazione internazionale, una grande cosa che si perde oggi. Nella sua opposizione contro i dogmi di 1870, Dellinger mostra dei problemi che sono ancora in discussione oggi della teologia cattolica e fuori, che fanno parte delle più difficili questioni del dialogo ecumenico. Al mio parere, sua significazione è meno locata nelle sue ricerche scientifiche, quello che scrivono i professori passa. Quello l'importanza risiede piuttosto nel suo sforzo di vincere le tensioni dell'esistenza che esistono fra struttura gerarchica, ecclesiastica e teologia. Allora, sono tre punti: attiva integrazione di teologia e politica della Chiesa fino al giornalismo, tirando al profitto l'opinione pubblica. Secondo, sforzo determinato di aprire la teologia sulla vita spirituale e culturale di una epoca. Terzo, nella fase finale della sua vita, intuizione sempre più chiara, e dopo un lungo tempo che tutta teologia deve sormontare i propri confini particolaristici confessionali per vincere lo scandalo della divisione dei cristiani. Grazie per l'ascolto. Grazie a lei. Gli interventi possono essere naturalmente di due tipi, insomma, o di chiarimento di questo quadro, di particolari, di ingrandimento, diciamo, di questo quadro, di particolari, di questo quadro che così grande che lei ci ha dato, o di contributi a questo, alla persona di Dolin con particolare riguardo, e qui viene anche l'intervento che può essere fatto adesso, subito in apertura o quando lei crede, sui rapporti tra Dullinger e l'Italia. Sì. Io direi che prima allora facciamo un quarto d'ora di, ci sono delle questioni di chiarimento su certi aspetti del gran quadro, un poco troppo grande, ma e dopo allora si può tornare alla signora Sala e alla Dullinger e l'Italia. Allora, aspetto delle questioni su delle questioni generali, sull'ambiente generale. Quindi come? Stava proprio il tempo e l'aria questa situazione ecumenica. Io credo che non era soltanto ma un po' approvato anche dei stati vicini e un po' più lontani di questa idea di ecumenismo. Io adesso non ce l'ho presente, ma ho fatto una grande introduzione di un inglese che credo che fosse contemporaneo. Mi occupo tutto di una teologia spicciola, recupero immaginati e qui è per provenienza questa teologia alta, ma credo che il suo tempo era già maturo per fare queste idee e che abbiamo aspettato sempre ancora, ma dobbiamo pure arrivarci a questa idea ecumenica, proprio non so, sociologia e teologia unita per tutto il mondo, che diventa poi anche, io non so, un ecumenismo, e comunismo proprio come che si muove appunto il Papa attuale, come si muove il nostro Presidente, che anche lui fa amicizia un po' dappertutto. Ha cominciato, ha avuto molto merito e ha avuto anche molte pene, però io mi dico che era maturo il tempo. L'ecumenismo lo discutiamo per oggi pomeriggio, perché il problema è ecumenico, perché lo discutiamo il pomeriggio, ma io le dico soltanto che ci fu un lungo sviluppo nella posizione di Dullinger, una lunga maturazione personale per perché la sua gioventù e la sua età matura fu anti-ecumenista in un certo modo. Allora lo lasciamo lì. Signore, lì. Volete. Sì, io chiedo scusa, volevo. Lei era partito stamattina definendo Dullinger teologo politico, eppure precisando che si tratta di una teologia politica diversa da quella che oggi ha corso, cioè non volta a una interpretazione politica del Vangelo, ma avendo altri obiettivi. La domanda che vorrei fare io è questa. Ha avuto Dullinger a che fare anche con colleghi, diciamo così, di organizzazione politica dei cattolici, dei cristiani? Ecco, io guardo avanti questo libro di Karl Mayer che è intitolato Revolution und Kirche sul progressista della Christian Democratie, e in questo libro Dullinger non è mai citato una volta. Siccome questo libro passa per essere un libro comunque Meyer passa per essere un importante storico del movimento politico cattolico cristiano, vorrei che lei, appunto da esperto di Derrida, mi spiegasse come mai Derrida non è mai citato una volta in questo. È una domanda un po' strana, ma... Io posso spiegare in questo senso che questo libro, quello libro tratta della Francia, Rivoluzione Kirch, tratta della Germania. Sì, tratta anche della Germania. Che, se mi dà il titolo... Tratta della Francia, però ha, sì, forse è un lei, ma però ha in realtà... Perché ha pubblicato... Negli escurse, dei riferimenti, sì. Si occupa prevalentemente del cattolicesimo francese. Io direi che questo è perché è la preistoria della democrazia cristiana, ma si limita all'ambiente francese. Ha avuto delle relazioni, sì. Questo è quello che mi interessava. Io penso che le relazioni di questo entra troppo per un libro e la sua abilitationsschrift che non è tanto ampia come una abilitazione francese, ma che questa è piuttosto sintetica, che sarebbe troppo fuori del scopo generale di trattare ancora le relazioni fra tedeschi e i francesi. Questo sarebbe... ha pubblicato dopo un libro sul cattolicesimo tedesco e lì si potrebbe... dovrebbe vedere perché allo stesso tempo quando questo è uscito parecchi anni prima di questo è uscito un libro del professor Buchheim, il padre del professore di politologia di Magonza, Hans Buchheim, sull'ultramontanismo tedesco, anche nel Goethe, e lì c'è molto su Derrida, ma piuttosto negativo su Derrida, piuttosto negativo. E il Meyer ha pubblicato dopo articoli, e là si potrebbe domandare se è dentro, ma mi pare che non ama neanche molto Derrida. Questo. Volevo sapere, lei ha accennato la collaborazione di Derrida con Johann Adam Müller, e al fatto che da Müller avrebbe acquisito una concezione organica della Chiesa. Desideravo sapere, questo nell'opera di Dürlinger come storico della Chiesa, come si manifesta questa concezione? Se si manifesta questa concezione? E poi se eventualmente è anche presente tra questa contemporanei. Io posso soltanto dire che direi che nell'opera di Derrida devo dire così: Derrida ha letto il dogma durante il periodo quando sono stato colleghi col Müller fino all'anno di morte di Müller, fu nel 36-37, e Müller faceva la storia della Chiesa, sopra la storia dell'antichità, e tutto quello che scriveva Dürlinger come non pubblicava le sue lezioni di dogmatica, questo è piuttosto, si deve ricercare nelle note che i studenti ne hanno fatto, ce ne esistono due o tre manoscritti di studenti dove si potrebbero allora controllare questo. E lì si trovano, allora, si trova bene questa influenza, si trova anche nella storia della, che ha scritto nella storia della Chiesa, che io non considero come un'opera grande, e quando posso dare una idea un poco sommaria di quello che diceva, io direi che questa visione organica della Chiesa ha piuttosto contribuito a Dönninger di un lato a non considerare problemi della struttura delle Chiese di una maniera critica, ma piuttosto allora di accettare le cose come sono state. Come sono state, allora piuttosto la concezione di Möller non l'ha stimolato in una direzione molto critica, ma piuttosto in una direzione di adesione assai, non direi rigida, ma intelligente di critica. Quello che dice sui protestanti, la ricezione di Möller con i protestanti, io non ho abbastanza informazione per dirgli una cosa seria. Io avrei forse dovuto, e questo appartiene, dovuto anche se lei cerca delle informazioni più precise, su quello posso dirgli un libro che si occupa della teologia di Dönninger, e anche Dönninger und Möller ci sono articoli. Io vorrei soltanto, avrei dovuto darvi una piccola bibliografia sul Dönninger, e adesso cerco, qui trovate l'ultimo, si posso dire, allora l'ultimo, ma forse non è l'ottimo, riassunto di tutto, bibliografia nella Theologische Realenzyklopädie, che voi abbiate, sull'articolo Dönninger, e lì io l'ho fatto, l'articolo in questione, lì abbiate la letteratura, diciamo, la più importante. No, e adesso io vado un po' indietro. Il primo libro scritto su Dönninger che è finora rimasto la biografia, come si dice, classica di Dönninger, è un libro in tre volumi del suo discepolo Johannes Friedrich, che è tornato al vecchio cattolicesimo e che l'ha scritto un poco in questa prospettiva, ma è molto buono per il periodo diciamo fino agli anni 60-70. Dopo anche la materia lì non tratta il periodo del Vaticano I e del post-periodo, non lo tratta bene, ma la gioventù, l'influenza di Möller allora è molto buona. E dopo è venuto un libro di un gesuita, Michael, che ha fatto un attacco contro la biografia di Friedrich, e che presentava un professore di Innsbruck, che presentava Dönninger, che cercava dappertutto elementi negativi contro di Dönninger. Questa è la seconda grande biografia. Dopo, un articolo molto interessante sulla teologia di Dönninger aveva scritto un uomo che cercava di preparare la biografia di Dönninger, Lord Acton. l'ho trovata anche nella mia biografia. E poi non c'era più niente fino agli anni 20 o 30, dove un cattolico convertito al protestantesimo, Fritz Wigner, l'autore della biografia, la grande biografia di Kettler, ha scritto un saggio molto illuminante su Dellinger, Möller e un terzo, drei Gestalten, Diepenbrock mi pare, drei Gestalten aus dem römischen Katholizismus. E poi, diciamo, c'è venuto un vecchio professore, un professore di Tübingen, di Nuovo Testamento, che si interessava molto alla storia della teologia di Tübingen, di della scuola Erga Möller e la Tübinger Theologische Quartalschrift. Quello si chiama Lösch, ha scritto un libro Döllinger in Frankreich con una bibliografia, si può dire più o meno completa, delle opere e degli articoli di Döllinger, è indispensabile come strumento anche di travail. E poi dopo posso dire che io sono venuto con questa pubblicazione di lettere di Döllinger che si continua ancora adesso, e poi ci sono stati parecchi altri lavori come una tesi di Monaco di un tipo Johannes Finsterhölzl, e questo li raccomando sulla chiesa della concezione di Döllinger. E poi c'è stato un libro, una dissertazione di Innsbruck pubblicata l'anno scorso su Döllinger e Newman. E questo è un libro su Döllinger come teologo dell'ecumenismo. Questo è un po' con la bibliografia. Io volevo chiedere un po' sulla svolta, sull'evoluzione di Döllinger dall'ultramontanismo praticamente. Se si può parlare di un passaggio dall'ultramontanismo al liberalismo cattolico, anche nel senso che prima è il nuovo Dürer, diciamo, Döllinger, e poi è amico di Montalembert, di Van Leeuwen, di questi, così, Maré soprattutto, di questi rappresentanti del liberalismo cattolico. Ecco, vorrei spiegarmi meglio questo passaggio, che mi pare è molto lungo nel tempo, è piuttosto graduale anche, e i motivi per cui l'ha fatto, da cui è stato condotto in questa sua evoluzione. Se è ad esempio il motivo come storico di ritorno alla Chiesa antica, e quindi la tramontabilità dello Stato Pontificio, eccetera, e nel medesimo tempo della ricerca di una Chiesa più adatta ai tempi nuovi. Ecco, come si svolge e come si può definire questo passaggio, questa evoluzione di Döllinger? Questa è una questione molto... Forse si possa aggiungere, sì. Paragonandola, magari vedendo evoluzioni simili di Padre Tucci o Liberatore, di alcuni altri ultramontanisti che sono diventati liberali o anche più. Ecco, se è un po', se si inserisce un po' in questo fenomeno, come? Le pone un problema molto interessante che sarebbe un soggetto, mi pare, anche uno studio molto più comprensivo, la disillusione di parecchi ultramontani o di parecchi personaggi quando vengono a Roma e quando sono lì per 2 o 3 anni, allora che fanno un giro completo allora della loro orientazione allora nella Chiesa. Questo è un problema per Dillinger, è molto difficile di dire lì, perché ci sono degli elementi autobiografici molto importanti, sociali, e io penso meno importanti che teologici. Prima lei l'ha parlato del liberalismo cattolico, certo, Dillinger fu legato con i cattolici liberali, ma io non considero Dillinger come un liberale, perché il movimento di Goethe, il cattolicesimo liberale, non esisteva, a mio parere, in un modo organico, in un modo importante, in un modo notevole in Germania. Il Goethe, perché abbiamo la cooperazione tra lo Stato e la Chiesa è necessario per i cattolici del circolo di Goethe, e Dillinger si vede dal tutto che ho detto, e che tutta sua la carriera fu intimamente legata con delle posizioni, con una affermazione dello Stato, di una inserzione nello Stato, mentre che nei cattolici liberali francesi c'è più distanza verso lo Stato e una distanza molto... non si capivano. Il liberalismo più piuttosto da Dillinger nel suo seconda epoca, un liberalismo teologico, se lo vuole, pastorale, ma non cattolicesimo liberale, cattolico, autentico. E questo... allora, come è venuta questa evoluzione? Io dico per una... se ci sono elementi teologici... io non penso che il classicismo teologico il quale Dillinger ha parlato nella prima opera fu determinante per la sua posizione in Settante. Certo, Dillinger gli mancava un concetto di evoluzione del dogma in generale direi. Io non dico che gli altri l'avevano, ma non si intendeva con Newman, che aveva elaborato una concezione di evoluzione del dogma che in occasione permetteva anche di accettare l'infallibilità. Dillinger non l'aveva in quel tempo, e biograficamente io penso che la disillusione col pontificato degli anni 60 di Pio IX fu decisivo per questa cassura di ultramontano. Non so, perché la questione è enormemente difficile, perché Dillinger pensava sempre rimanere fedele alla vera Chiesa, a quello che aveva gli ideali di Möller, gli ideali della sua gioventù. Questo fu il suo, il suo ragionamento dopo gli avvenimenti di Vaticano I. Io volevo ritornare un pochino sugli anni iniziali, del periodo della tesi di laurea di Dillinger, dal momento che ripaiono anni questi in cui in Germania è ancora abbastanza vivo il movimento di cattolici Aufklärung. Allora, fare una tesi sull'Eucaristia e fare una tesi sull'Eucaristia in riferimento alla Chiesa primitiva, con tanta attenzione alla Chiesa primitiva, può avere un duplice valore. Da un lato può significare attenzione a quel movimento di cattolici Aufklärung che chiedeva appunto in nome del ritorno alla Chiesa primitiva delle riforme, e delle riforme in ambito liturgico e in ambito eucaristico. C'è una serie di personaggi, di teologi che si muovono nella Germania appunto a cavallo tra fine del Settecento e inizio dell'Ottocento, che chiedono questo tipo di riforme. Ma può anche voler dire cercare di opporsi a questo movimento riformistico. Ad esempio in Italia abbiamo personaggi come Mamachi che indagano sulla Chiesa primitiva proprio per mostrare come coloro che chiedono riforme in realtà vanno contro l'immagine della Chiesa primitiva o la tradizione storica della Chiesa primitiva. Allora mi chiedevo, Dellinger a quale di questi due aspetti appartiene? Cioè, in sostanza, la sua tesi non è solamente una tesi polemica contro i protestanti, ma una tesi anche polemica contro movimenti riformistici interni alla Chiesa cattolica, oppure invece è un tentativo in qualche modo di, seppure prudentemente, avvicinarsi a questi movimenti riformistici? Io penso che la tesi di Dellinger va anche contro gli ultimi rappresentanti allora dell'Aufklärung cattolica, del cattolico Aufklärung, e che in questo senso fa un po' quello che Mamachi faceva in Italia. Sì, sono i due elementi insieme, e c'è anche forte in quegli anni la reazione contro l'Aufklärung teologica, ma non sono bene al corrente di quello che rappresentava in quel momento ancora l'Aufklärung nel suo, non so quanto fu una forza reale, questo perché in un altro modo fu già allora il Seiler, che aveva una teologia non di Aufklärung, ma una buona di via media in Germania. Allora, ma mi pare che Dellinger fu un uomo che andava sempre contro qualche cosa con molta energia, e che aveva un poco bisogno di un come il toro di una cosa rossa che lo spingeva ad agire, a scrivere. Io mi richiamo a una osservazione che lei ha fatto per spiegare l'evoluzione o forse la continuità dell'opera di Dellinger, ossia certi aspetti autobiografici, tra i quali mi sembra molto importante la posizione apologetica di Dellinger nei confronti dei protestanti. Ossia mi sembra che una certa evoluzione, anche certe posizioni che lui prende negli anni 60, siano spiegabili come conseguenze di un atteggiamento precedente di difesa dell'azione della Chiesa cattolica legata al prestigio della cultura storica. E mi sembra che la conferenza al congresso di Monaco del 64 possa aiutare a spiegare, ossia questo che lei ha detto sullo stimolo ai teologi cattolici e tedeschi in genere di un lavoro storico per vincere le divisioni fra i cristiani, mi sembra che spinge in quella direzione che poi si ritrova poi alla, in occasione del Concilio Vaticano I, ossia approfondire storicamente per appurare quali erano le linee della Chiesa primitiva e su quella ritrovarsi tutti quanti, tutte le confessioni. Nel momento in cui da parte della Chiesa cattolica si stabiliva il principio dell'infallibilità pontificia, ossia si innovava, crollava il discorso che lui aveva fatto, il discorso culturale, il discorso storico che lui aveva fatto precedentemente e su cui sperava che ci si potesse ritrovare. Sì. Sbaglio. Io sono molto d'accordo con lei che sarebbe anche una risposta alla sua questione che ho dimenticato. Allora, io penso che fu centrale questo, si può dire, l'elargazione della sua concezione di teologo cattolico diretto primo contro l'Aufklärung, poi per la cresciuta della stima della teologia cattolica in un senso un poco non riflessivo, ma ancora contro i protestanti, poi il cambio che non si può fare più la teologia confessionale e che tutta la politica romana, anche il dogma, che ci sarebbe bisogno di una collaborazione fra i confessioni e che il metodo storico, e per questo si dava ai cattolici una superiorità ai protestanti per saccare la verità storica e poi per mettere una specie di collaborazione, di riunione, ma con un gruppo di protestanti conservativi. Io penso che tutto questo correlava, come lei l'ha detto, col dogma perché aveva in petto una storia della Chiesa non sistematica, nella quale sarebbe venuta anche una interpretazione della sede apostolica come strumento di unione, guardando anche gli ortodossi. Ma questa opera non fu mai scritta e Vaticano I turbava i suoi circoli. In qualche cosa di marginale direi rispetto a questo tema centrale, ma vorrei ricollegarmi a quello che è stato detto a proposito del liberalismo cattolico e quello che lei ha detto a proposito del problema collaborazione Stato-Chiesa, no, e tutto quello che lei ha detto invece a proposito dei rapporti italiani con Italia e gli italiani, e in fondo lei ha messo in rilancio un po' questa anche diretta di disistima, no? Dei rapporti del pensiero italiano. Ora, appunto, io sto facendo ancora una ricerca che non è terminata su un giornale che è uscito, un giornale che si propone una riforma della Chiesa e che è uscito a Firenze tra il 1864 e il 1870. E a me è un giornale particolarmente interessante perché mentre pure tutta una serie di problemi riguardo la riforma interna della Chiesa, lo spirito di libertà, eccetera, in realtà dimostra fino intorno al 1868 di tenere poco conto del cattolicesimo tedesco e dal Dalinger in particolare. E l'unico accenno è subito sul primo numero che esce nel 1864, proprio riguardo alla conferenza teologica per la vita di Montpellier, e se ne parla direi con un certo entusiasmo, quasi con una possibilità di vedere un piano comune che appunto una riforma della Chiesa auspicata da questo gruppo che io definirei nazionale liberale, a grosso modo in Italia, che possa avere appunto corrispondenza e un aiuto, direi quasi, nei gruppi interisti. Poi invece questo legame, questo riferimento al Delega del mondo giovanico scompare completamente fino al 1868. Poi riprende negli ultimi due anni di questo giornale, tra il 68 e il 70, quando in realtà questo giornale è preso in mano da un americano, che è il Lenton, che poi è in corrispondenza con Dellinger e da un'altra parte in corrispondenza con Riccardo Lippino, e appunto il giornale ha un momento di svolta che sembra veramente voler diventare internazionale, con un rapporto col mondo germanico, col mondo inglese, col mondo americano, con l'anglicanismo anche americano, e poi a un certo momento invece nel 70, con il Concilio Vaticano e l'imperialità papale, e cessa le pubblicazioni, no, perché in realtà è dichiarato eretico, viene condannato da Roma e non ha più un seguito. No, e in realtà viene poi presa da Tassani a Bologna, no, con il rinnovamento cattolico. No. E mi sembra interessante che ci sia questo momento di tentativo di vedere questo nazionalliberalismo italiano legato a un liberalismo anche in Germania e che poi invece si perde negli anni venti. No, forse proprio perché capisce che non si tratta di liberalismo. Appunto, perché non si tratta di liberalismo. Liberalismo liberale. Quindi è qualcosa di diverso, e d'altra parte appunto questo gruppo italiano tenta, direi quasi così, un avvicinamento anche al gruppo francese, ma poi in Italia c'è il problema del temporalismo, il problema del potere temporale, che in realtà distacca i cosiddetti cattolici liberali italiani dai cattolici liberali degli stati, gli altri stati europei. C'è anche però il problema. Sì. Che sarebbe il numero, il nome di questa rivista? L'esaminatore. L'esaminatore, sì. Grazie. Ha come direttore Stanislao Bianciardi, che è un personaggio molto legato al signore Caso. Ora spero di riuscire a portare a terra, perché proprio ci sto facendo da molti anni. Ha menzionato dopo un inglese, un nome inglese, anche come... Lendon. Chauncey Lendon. Mi ricordo adesso che le ho anche dentro, sì. Non posso rispondere perché questa è una questione aperta di ricerca che si dovrebbe fare. Sarebbe molto interessante anche qualcuno nelle riviste teologiche dell'epoca faceva un poco l'eco di Döllinger in tutte le sue pubblicazioni anche prima del Concilio Vaticano I e la Civiltà Cattolica almeno l'ha menzionata parecchie volte. E io penso che a Rovereto ci fu un sacerdote che ha scritto su di lui, Don Pirazzoli. E gli domando se le sue ricerche toccano, signora Trimigliani, a quelle di Marcella De Ambrosis, un po' quell'ambiente, sì. Io provo una certa esitazione a intervenire in questo seminario di studi dopo la relazione dell'illustre professor Colsenius. Non potrò portare che un contributo ancora provvisorio e incompleto delle mie ricerche sulle interrelazioni culturali e politiche tra Ignaz von Döllinger e la società italiana, tema al quale sto lavorando per la mia dissertazione di laurea in lingua e letteratura tedesca sotto la guida del professor Corsini all'Università Ca' Foscari di Venezia. ma è stato lo stesso professor Consenius, al quale mi ero rivolta per avere indicazioni e suggerimenti per le mie ricerche sul Nachlass del Dellinger, e lo ringrazio qui caldamente per la cortesia con cui ha corrisposto alle mie domande, è stato lo stesso professor Consenius a esprimere il desiderio che in questa sede dessi una breve relazione sullo stato di avanzamento del mio lavoro. Esso ha come fine, vale la pena di ripeterlo, non il pensiero e il ruolo di Dellinger in campo teologico e della storia della Chiesa, né la sua figura e la sua opera in tali settori, dai quali tuttavia non è possibile prescindere e sui quali la letteratura generale e specifica è assai ricca, ma la conoscenza che il Dellinger aveva dell'Italia risorgimentale, l'influenza che ebbe sui circoli culturali e politici italiani nel secolo XIX e quella che intellettuali e politici italiani ebbero su di lui, e infine l'accertamento se e in che misura le dottrine del Dellinger furono recepite, condivise e diffuse in Italia, specialmente in connessione con il problema dei rapporti Stato-Chiesa e del potere temporale del papato. Due questioni che furono nella viva attenzione del teologo tedesco e che costituirono, come ognuno sa, motivo di delicato e grave dibattito ideologico e politico nel Risorgimento italiano. Il quadro organico delle interrelazioni culturali e politiche tra il Dellinger e la società italiana tra gli anni 40 e gli anni 80 del secolo XIX non è stato oggetto ancora di una ricerca e di uno studio unitari. Cenni si trovano, e neppure in tutti, negli storici del Risorgimento, ma sono cenni fugaci e limitati, quasi sempre e quasi esclusivamente in modo rapido e sommario, alla posizione che il Dellinger assunse in riguardo al Concilio Vaticano I e alla proposta e poi proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia. Senza dubbio furono proprio gli anni tra il 1869 e il 1872 quelli nei quali più largamente si diffuse in Italia l'eco del pensiero e dell'azione del Dellinger e quelli nei quali egli ebbe più costanti ed intensi contatti epistolari con corrispondenti italiani. Ma all'indietro di quel triennio v'era già una lunga consuetudine di rapporti del Dellinger con qualificati rappresentanti del mondo politico e culturale italiano, ed egli stesso non aveva trascurato la storia e la letteratura italiana, non solo del periodo della classicità romana, del Medioevo e del Rinascimento, periodi allo studio e alla conoscenza dei quali tanto e sì alto contributo ha dato nel secolo XIX il mondo germanico, ma anche e propriamente del periodo risorgimentale. Del mondo italiano del secolo XIX, il Dellinger aveva senza dubbio una conoscenza non superficiale e si teneva informato su ciò che accadeva via via nella penisola. Se ne viene testimonianza dalle tante opere italiane o riguardanti le cose d'Italia che egli conservava nella sua biblioteca. Di essa è stato redatto e pubblicato il catalogo, Catalog der Bibliothek des Königlichen Universität Professors Dr. Johann Josef Ignaz von Dellinger, pubblicato a cura del Comitato di Amministrazione dell'Università di Monaco. Le opere riguardanti l'Italia sono circa 250 e spaziano dalla storia alla letteratura, alle ricerche archivistiche e bibliografiche e ovviamente alla storia della Chiesa e del Papato. Ma sono quelle riguardanti il periodo risorgimentale che maggiormente interessano, a conferma dell'ampia conoscenza che egli voleva avere della problematica ideologico-politica dell'Italia del suo tempo. Un completo elenco non è possibile dare qui, ma il nome di qualche autore, letterato, storico o politico, le cui opere il Dellinger raccolse nella sua biblioteca, va pur almeno sommariamente indicato. Massimo D'Azeglio, Cesare Balbo, Saverio Bettinelli, Cesare Cantù, Gino Capponi, Pietro Colletta, Giuseppe Ferrari, Giuseppe De Leva, Ernesto Masi, Luigi Tosti, Pasquale Villari. Merita poi di porre nel dovuto rilievo che nella sezione italiana della Biblioteca del Dellinger si trovano anche pubblicazioni specificamente riguardanti il corso degli avvenimenti politici contemporanei e i lavori del Parlamento italiano in cui si rispecchiavano e si dibattevano molte questioni di ampio interesse generale. Così ad esempio vi troviamo i discorsi parlamentari sulla questione romana 1861-1870 di Pasquale Stanislao Mancini, l'esposizione finanziaria fatta alla Camera dei Deputati nella tornata del 27 novembre 1873 di Marco Minghetti, e dello stesso Minghetti il discorso ai suoi elettori pronunziato a Colonia Veneta il 31 ottobre 1875. Il discorso alla Camera dei Deputati nella tornata del 30 gennaio 1873 di Salvatore Morelli. Il discorso pronunciato al Senato del Regno nella tornata del 28 aprile 1877 di Diomede Pantaleoni. Il discorso pronunciato dal deputato Conradi Tommasi Crudeli sulle relazioni dello Stato con la Chiesa nella seduta del 5 maggio 1875. Perciò il Dellinger si poteva cimentare nelle sue opere anche in giudizi su fatti o personaggi italiani. Una testimonianza di questa sua conoscenza dell'Italia e del mondo italiano è senza dubbio lo splendido discorso che gli tenne in memoria del marchese Gino Capponi di Firenze nella seduta del 28 marzo 1876 della Reale Accademia Bavarese delle Scienze, di cui anche il Capponi era membro. Tale discorso è ora inserito nell'opera Accademische Vorträge. Leggendo quel discorso si vede come il Dellinger fosse in grado di seguire anche l'aspetto diplomatico-militare del nostro risorgimento. Cita la battaglia di Novara, la guerra del 1866, e le varie tappe dell'unificazione d'Italia. La fonte più diretta delle relazioni del Dellinger con il mondo politico-culturale italiano è costituita dalla sezione di corrispondenza italiana che fa parte del Nachlass di Ignaz von Dellinger, che si trova attualmente nel reparto manoscritti della Staatsbibliothek di Monaco, diviso in alcune sezioni, la seconda delle quali interamente dedicata alle lettere indirizzate al Dellinger. Le lettere di corrispondenti italiani dirette al Dellinger in uno spazio di tempo che va dal 1841 al 1882 sono circa un centinaio. La maggior parte di esse sono inedite e neppure utilizzate. Meno facile, e sino a questo stadio il mio lavoro è sicuramente ancora lacunoso, mi è stato il reperimento delle lettere del Dellinger ai suoi corrispondenti italiani. Sparse come esse sono rimaste, per quel che sono state conservate, cosa ancora da accertare, nelle carte personali dei singoli corrispondenti. Due lettere di Ignaz von Dellinger al marchese Gino Capponi sono state pubblicate da Alessandro Carraresi nella sua opera Lettere di Gino Capponi e di altri a lui, Firenze, 1882-1890, 6 volumi. Due lettere a Giuseppe Massari si trovano depositate all'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Roma e sto facendo ricerche per accertare se esse siano state pubblicate o utilizzate in qualche modo, oppure se siano ancora inedite. Infine, una lettera del Dellinger al barone Giovanni Atrato di Trento si trova pubblicata nel libro di Nicoletta Cavalletti, L'abate Giovanni Atrato attraverso i suoi scritti, Trento, 1967. Non sono riuscita purtroppo a ritrovare l'originale di questa lettera e neppure una copia esiste nell'archivio dei baroni Salvadori in Trento, ora acquisito dall'Archivio di Stato di Trento, nel quale si trova anche il carteggio del barone Atrato. Inoltre la Cavalletti non cita la collocazione originaria della lettera. Le stesse osservazioni valgono per due lettere del barone Atrato al Dellinger, pubblicate nel già citato volume della Cavalletti, e che io non ho ritrovato neppure nel Nachlass del Dellinger a Monaco. Giovanni Atrato, sacerdote e giornalista trentino, professore al seminario di Rovereto, ebbe rapporti con il Dellinger fino dal 1848, anno in cui si trovarono tutti e due all'Assemblea Costituente di Francoforte, il Dellinger come deputato di Landau an der Isar e l'Atrato come rappresentante del Trentino. Trentino che era inserito nel quadro politico-istituzionale dell'impero degli Asburgo, ma da sempre omogeneo per lingua e cultura con la nazione italiana e perciò a cavallo e in ruolo di tramite tra il mondo tedesco e quello italiano. Dall'elenco dei corrispondenti italiani del Dellinger, che non leggo nella sua interezza per brevità, credo di dover ricordare tra i corrispondenti italiani almeno i nomi di Gino Capponi, Cesare Cantù, Giuseppe Massari, Giovanni Aprato, Alessandro di San Marzano, nel quale c'è da accertare perché pare abbia fatto un tentativo di conciliare il Dellinger con la Chiesa dopo la sua scomunica. Pasquale Villari, Marco Minghetti, Quintino Sella, Luigi Prota Giurleo, Diomede Pantaleoni. Molte notizie utili sulle relazioni del Dellinger con personalità italiane della cultura e della politica si trovano anche nei volumi di corrispondenza del Dellinger con Lord Acton, pubblicati dal professor Consenius, Briefwechsel Ignaz von Dellinger Lord Acton. In questo carteggio si trovano citate sia da parte dell'Acton sia da parte del Dellinger personalità italiane di un certo rilievo e si trovano testimonianze di una conoscenza diretta del Dellinger del mondo italiano e della storia dell'Italia a lui contemporanea. Questa conoscenza non era unilaterale, ma reciproca. Infatti non solo il Dellinger aveva rivolto un'attenta e profonda indagine ai maggiori problemi e peculiari caratteristiche della nostra storia, ma anche autorevoli studiosi italiani conoscevano il Dellinger e il suo pensiero. Tra questi emerge particolarmente Ruggero Bonghi, che più di ogni altro si è interessato con la sua acuta versatilità di Ignaz von Dellinger e del suo pensiero. Allo stato delle mie ricerche non mi risulta che egli sia stato in corrispondenza diretta con il teologo tedesco, ma in effetti ha scritto molto su di lui, come possiamo notare in numerose sue opere che riguardano la Chiesa e i movimenti al suo interno. Troviamo inoltre nominato il Dellinger perfino in un discorso alla Camera sulla soppressione delle facoltà teologiche in Italia, nel quale il Bonghi cita ad esempio la Germania e il Dellinger. Interessanti sono i suoi giudizi sul movimento dei vecchi cattolici sorto in Germania e sull'impossibilità di trapiantare tale movimento in Italia, dal momento che, afferma il Bonghi, il movimento dei vecchi cattolici ha un suo carattere nazionale peculiare tedesco e che non ha niente a che fare col mondo al di qua delle Alpi. Ruggero Bonghi ha scritto anche un necrologio alla morte del Dellinger, che fu pubblicato sulla Nuova Antologia, anno 24esimo, 1890, pagine 637-662, nel quale esalta i meriti del Dellinger e conclude dicendo: «Più l'uomo volta la fronte da ogni parte e non s'arretra, e più nemici sfida, e contro maggior numero mantiene il posto in cui Dio e la sua ragione l'ha collocato, più egli è grande». Questa grandezza non si può negare al teologo e allo storico che la Germania ha perso. Il primo studioso italiano con cui Ignaz von Dellinger ebbe rapporti epistolari fu il marchese Gino Capponi di Firenze. Negli anni fra il 1841 e il 1855 troviamo una vivace corrispondenza riguardante anche questioni letterarie. Sia nelle lettere del Capponi che in quelle del Dellinger si trovano numerose richieste di libri. Inoltre il Dellinger, nelle sue due lettere al Capponi, pubblicate nell'opera citata di Alessandro Carraresi, esprime vivo interesse per le riviste italiane del tempo, l'Antologia Italiana e l'Archivio Storico Italiano. Il Dellinger aveva conosciuto personalmente Gino Capponi quando quest'ultimo, nel 1841, si era recato a Monaco, e si erano rivisti poi nel 1852 in occasione di un viaggio in Italia del Dellinger, durante il quale il teologo tedesco si era reso conto della situazione italiana. Molto importante è la lettera pubblicata sulla Nuova Antologia, anno settimo 1872, pagine 748-749, che Quintino Sella, presidente del Ministero e ministro delle Finanze, indirizzò in data 20 settembre 1872 a Ignaz von Dellinger, che a quell'epoca era rettore dell'Università di Monaco, per ringraziarlo della nomina dottore della medesima università. Significativa è la data di questa lettera, di 2 anni posteriore alla presa di Roma, ma soprattutto significativi sono gli accenni in essa contenuti ed espressi con vivaci accenti a ricordo della comunanza fra i due popoli, l'italiano e il tedesco, di vicende politiche e storiche, accenni congiunti a un vivo auspicio per un riavvicinamento e comunione di intenti fra Germania e Italia, che dovranno unirsi contro le ingerenze della Chiesa negli affari dello Stato, motivo sottolineato dalle parole: «Non mi meraviglio che la Germania si trovi legata all'Italia da uno stretto vincolo, non soltanto per il ricordo delle imprese, ma quel che più conta, a causa dei pericoli comuni. Di conseguenza, noi dobbiamo combattere una guerra comune e con armi solidali al di qua e al di là delle Alpi». Nell'ambito delle relazioni che hanno unito il Dellinger all'Italia, va inserita la sua elezione, in data 26 giugno 1889, a socio corrispondente estero della rivista italiana Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Lo stesso anno, su questa rivista, anno sociale VI, tomo VI, pagine 1081-1097, apparve una relazione del professor Giuseppe De Leva riguardante una memoria di Ignaz von Dellinger, Dante qual profeta. Alla fine di tale relazione si legge: il Dellinger in ultimo si fa la domanda: se mai Dante adesso si riaffacciasse alla vita, come giudicherebbe la relazione dell'Italia con la Germania? E conchiude: chi ha letto nell'animo del poeta può ben rispondere per lui, che ambedue le potenze per la salute loro e del mondo siano congiunte in una lega di pace, ma nel tempo stesso rimangano sempre politicamente separate e indipendenti l'una dall'altra. Questa dichiarazione di Ignaz von Dellinger è un chiaro sintomo di quell'aspirazione che dopo il 1870 si fece sentire sia in Italia che in Germania, affinché le due nazioni insieme percorressero un comune cammino culturale. Un altro aspetto dell'influenza esercitata dal Dellinger sul mondo italiano è costituito dai vari tentativi fatti in Italia per formare, dopo la proclamazione dell'infallibilità pontificia, movimenti scismatici sul tipo di quello dei vecchi cattolici di Germania. Bisogna però giudicare con estrema prudenza tali iniziative e non si può affermare categoricamente che questi movimenti italiani di riforma interna della Chiesa rispecchiassero esattamente le finalità del movimento dei vecchi cattolici. Mentre in Germania il vecchio cattolicesimo restò sempre un movimento dei ceti accademici e borghesi e quindi non coinvolse le masse cattoliche, in Italia i movimenti riformatori presero l'avvio dal clero minuto e dal popolo. Si deve riconoscere però che essi, nella loro ribellione alla gerarchia, presero ad esempio la Chiesa vecchio cattolica di Germania. Ma a differenza della Germania, dove il movimento dei vecchi cattolici ebbe una notevole diffusione, in Italia invece queste iniziative non ebbero molto seguito e rimasero fatti isolati. Il nucleo più consistente si costituì attorno alla società emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio italiano di Napoli, presieduta dal domenicano Luigi Prota Giurleo. Anche il governo ad un certo punto sembrò appoggiare questo movimento per mezzo del deputato Pasquale Stanislao Mancini, che il 17 dicembre 1873 presentò alla Camera una petizione con la quale i sottoscrittori della stessa chiedevano al governo di assecondare la costituzione di una Chiesa nazionale italiana. Successivamente però anche il governo abbandonava queste iniziative al loro destino. Come si può notare da quanto finora esposto, Ignaz von Dellinger ha esercitato una notevole influenza sull'Italia, influenza che non si limita solo, come è stato visto finora dalla maggior parte degli storici italiani, agli aspetti teologici, ma che è opportuno allargare anche a questioni politiche. Il mio lavoro non è ancora terminato, ma allo stato delle mie ricerche mi sembra di poter affermare che si dovrebbe dare un maggior risalto ai rapporti del Dellinger col mondo politico-culturale italiano, rapporti che si inseriscono nel quadro più generale delle relazioni culturali e politiche tra Italia e Germania, in particolare dopo il 1870. Grazie. Sono molto lieto di questa comunicazione e di della signorina che fa un lavoro originale, mentre che il mio che ho presentato è piuttosto un réchauffé riscaldato da 25 anni non ho riuscito finora a fare una sintesi di tutto. È un personaggio un poco che tocca la teologia, la cultura generale, e non è una cosa facile, perché da anni, dopo la sua morte, la scienza non fu interessata molto a lei e la Chiesa l'ha abbandonata, anche perché fu considerato scismatico. Allora fu sempre pericoloso di occuparsene. Una domanda curiosa: accademicamente, dopo il 71, che situazione ha avuto? Accademicamente fu lasciato come professore e fu trasferito in facoltà di filosofia, di lettere, e fu presidente dell'Accademia delle Scienze, fu conservatore generale dei musei in facoltà, sì. E poi fu nominato sì, no, ma mi interessava il passaggio dalla facoltà di filosofia, non fu più in teologia, sì. Ma non so se, questo non lo ricordo adesso, si insegnava ancora molto, perché aveva già 72 anni, ah, beh, 3, vero, 3. Sì. Ma in questo tempo... Ha fatto 90 anni, quindi, 91, cos'è? 91, sì. Io sono molto lieto di questa contribuzione e se mi permettete io farò qualche osservazione. Prima una idea che mi è venuta, che tocca forse ambedue, anche la signora Terbigliani, per la corrispondenza, nella corrispondenza di Gladstone si trovano forse, mi pare che si trova, c'è una corrispondenza di Protagiuleo e poi forse anche di Chauncey Lang, questo non mi ricordo bene, ma Gladstone, che fu un cattolico anglicano di cuore, di molta convinzione, un uomo credente, che a un certo momento pensava farsi romano, ma la sorella convertiva al cattolicesimo romano, ma lui non, ma guardava sempre una mescolanza di interesse e di odio verso la Chiesa romana. Fu molto interessante a stimolare in Italia movimenti di riforma fra i cattolici, e della sua corrispondenza che si trova nel British Museum ci sono corrispondenze che e la conosco forse, ma la dica lo dico soltanto se non l'avesse. E poi una cosa che mi pare molto a parte le lettere, sarebbe interessante di approfondire un poco due aspetti, l'eco che trovavano le pubblicazioni, se vedo bene, e la si limita all'aspetto risorgimentale, sì. Ma non alla teologia, non le questioni politiche, va bene. Allora, quell'altro lavoro rimane ancora da fare, che è ancora un lavoro molto importante, la teologia, perché la la cura romana e negli ambienti teologici rimane ancora da fare. Ma per questo sarebbe interessante di consultare ancora i rapporti degli ministri, degli inviati d'Italia a Monaco, nel Ministero della Farnesina, perché negli anni 70, 60, 70, 79, 70 Döninger diventava un personaggio sul quale allora i governi erano molto interessati di ricevere informazioni, e questo è il caso per Monaco, è il caso della corrispondenza di di Gladstone e del ministro di Inghilterra a Monaco, rapporta in ogni dispaccio su Döninger e vecchi cattolici dopo, perché sa l'interesse che ha Gretz per tutte queste questioni. E sarebbe interessante di vedere quale interesse ha avuto il governo in questo. Vi ho fatto distribuire, non so se l'abbiate ricevuto, una lettera del... Forse qui sotto, no, no. Ora no, non è che sia qui. No. Le fotocopie che erano state fatte. Allora, mi fa pena, fino a... Del Conte Barbolani di Cisapiana a Crispi. Una copia? No, poi dopo ho dato altre tre cose. No, no, questo è l'altro del mio libro. Questo è del mio libro, no. Scusi, allora, scusi. Sono rimasto fotocopie in giro, fatte stamattina, perché... Allora, io posso, a quello che si interessa, c'è una copia libera. Dovrebbe essere stato fatto 20 fotocopie di questo. Io, una è stata fatta, quindi credo che anche le altre. No? Se sono state fatte anche le altre? No, non lo so. Siete di Renato, sono in giro. Se l'ha fatto e dove le ha lasciate? Sì, se è possibile ancora, forse vi interessa, c'è una visita del ministro italiano presso di Dellinger che è stato pubblicato dal professor Lutzki Vienna già 23 o 24 anni fa. E allora il Barbolani, che è piuttosto un liberale nazionalista, cerca di avere di Dellinger uno statement, una decina, grazie, un statement che va in favore di una decentralizzazione della Chiesa, un decentramento. E allora Dellinger è molto riservato e pensa che dice: a me non mi pare che convengo anch'io che la universalità della Chiesa romana è una idea medievale, ma a me non pare che essa abbia già fatto interamente il suo tempo, e poi non vedo come se ne effettuerebbe il decentramento, la decentralizzazione. L'ambasciatore d'Italia parla di questo e Dellinger non vede, e poi fa una critica della politica anticlericale e anti-laicista del governo italiano. Dellinger è al tempo del ministero Crispi, cioè in un periodo successivo all'ottava crisi dell'87, e quindi periodo di tensione, sì. Trovare materiale a questo proposito. Io sono un po' più pessimista, direi, della signorina riguardo ai rapporti tra Dellinger e l'Italia, ossia che ci siano alcune corrispondenze, certo, però se uno guarda la massa, per esempio, della corrispondenza nella direzione della Francia, nella direzione dell'Inghilterra, direi che ne risulta un'impressione molto modesta. E in comparazione, insomma, anche in genere, direi, per quanto riguarda l'atteggiamento di Dellinger, alcuni corrispondenti, come appunto Capponi e Cantù, sono piuttosto hanno parecchie lettere, però questa corrispondenza a un certo punto viene meno anche per ragioni economiche, diciamo. Comunque, riguardo anche all'importanza che viene data a Dellinger in Italia, io dunque sarei per ridimensionare, insomma, questa importanza, e mi pare che una, un elemento, una spia può essere proprio quella dell'attenzione del rappresentante diplomatico italiano. Io ho visto questi rapporti nelle carte di sconti Le Nostra, quello spezzone che c'è all'archivio centrale dello Stato, e insomma non ho trovato, cioè non c'è attenzione in realtà in quella direzione. Del resto il governo di destra mi pare che fa del tutto tranne Minghetti in un certo momento per limitare la espansione, cioè si guarda molto alla influenza sempre più forte dal punto di vista finanziario, il Bismarck per esempio, nelle banche bavaresi e negli ambienti politici bavaresi, ma io devo confessare che non ho trovato. Va bene, io. Sì, grazie. Il mistero è troppo grosso, io non vorrei sfruttare la discussione e la riprendiamo, però la riprendiamo un po' ancora, scusate, ma è proprio per non sfruttarla davvero. Vorrei rispondere alla signora se le divertica ancora, ma riprendiamo l'influenza che ha avuto il Schellinger nella società culturale e politica italiana e rispettivamente la conoscenza che Schellinger aveva della situazione italiana nell'epoca di Occidentale. È evidente che quando si parla di una grande influenza, una estesa influenza di un personaggio che pur avendo avuto un grande rilievo all'interno dei settori a cui si era dedicato, non si può mai pensare a influenze così ampie come altri pensatori possono aver avuto. Però quello che dai lavori che ho fatto la mia laureanda, spero, mi pare che emerga sicuramente è questo, che forse, anzi sicuramente noi non abbiamo ancora studiato tutto il problema della sua attività. Tant'è che non esiste un'opera, un lavoro organico in materia, ma forse anche che è leggermente più ampia questa influenza di quello che si potrebbe, va bene, lo facilmente così, spero, sorvolare. Per esempio, la relazione diretta che ha avuto con uomini di governo. Io mi domando quale importanza si debba dare al fatto che l'Accademia delle Scienze di Monaco, scusate, che l'Università di Monaco abbia dato la laurea honoris causa a Quintino Scella nel momento in cui era ancora, avendo rettore, il Berger. Siamo nel 1872. La lettera di risposta del Scella è del 20 settembre del 1872. Il 20 settembre adesso non è più una grande festa nazionale, ma quando ero ragazzo io, perlomeno fino a che in Italia il discorso politico-culturale non è stato diverso, era una festa di grande, va bene, della celebrazione nazionale e laica. Ora è proprio il 20 settembre che il Scella risponde in quella lettera latina di due pagine a Dellinger, ero ricordando questo, che è un altro aspetto poi sul quale mi pare che valga la pena di fare qualche sottolineatura, ricordando questa comunità di rapporti culturali e scientifici tra Italia da una parte e Germania dall'altra. Vero che forse lì siamo andati al di fuori da parte italiana di quelle che erano le intenzioni del Dellinger. Il Dellinger non è vero questo, non è mai stato decisamente avverso o nemico della Chiesa cattolica, o anche nei confronti della civiltà romana, ha sempre avuto quei alcune esitazioni, come quando richiamava i vecchi cattolici l'inutilità di scindersi, che le riforme si fanno dall'interno, eccetera. Ma non c'è nessun dubbio che in quel momento si sente, da parte di uomini di primissimo piano in Italia, pensiamo a Cella, la facilità di collegare quello che è stato il movimento laico, laico non antireligioso, ma sicuramente come è stato nello spirito del Risorgimento, è contrario alla supremazia o alla eccessiva influenza della Chiesa sullo Stato, che è stata del resto una delle tesi sostenute proprio come l'ha fatto anche dal Dering nell'Assemblea della Nazionale per Stato, gli interventi hanno riguardato proprio questo problema dei rapporti Stato-Chiesa. Certo, non ha avuto un'influenza larghissima sulla situazione italiana, benché qui la sala per brevità non ha citato, ci sono state molte traduzioni delle opere del Dering in Italia. 17 opere, anche 2 o 3 traduzioni. Di alcune opere 2 o 3 tra venerdì. Di quale periodo? Questo è interessante. La storia della Chiesa del 1336 di Leopold der Kirchengeschichte ha avuto 2 traduzioni, che è del 1836. E anche quel Muhammad's Religion, anche, che è del 1946, ha avuto 2 traduzioni. Poi proposte di traduzioni, sì, che sono venute da case editrici, sì, italiane, no? Sì. Attraverso le lettere. Cioè, attraverso le lettere si vedono che ci sono state proposte di traduzioni anche quell'opera Kirchenkirche, che purtroppo non si sa se effettivamente sia stata tradotta, però anche nelle lettere si trovano richieste di tradurla. Ecco, da dove? Come dice? Quale editore? No? Dove sono? Ah bene, adesso non abbiamo più le lettere, ma nelle lettere citato ci sono. Sì, sì. E poi dai Marietti. Bene, Marietti voleva fare la traduzione della storia della Chiesa, rifarla da Torino, Marietti. Torino voleva farla alla lettera. Anzi, una addirittura domanda se Denninger volesse apportare qualche variazione o qualche ulteriore commento, così che la traduzione fosse completa e fosse ancora più autorevole e più aggiornata. Adesso io non ho qui, ripeto, tutte queste notizie, ma la traduzione di alcune opere del Dellinger furono fatte e c'era anche la proposta, va bene, di farlo. Per esempio lo stesso governo, quella Kirchen lì è una cosa da accertare, però, per lì che c'è. Cioè, lei si riporta una notizia dell'Augsburger Allgemeine Zeitung, in cui dice che, sì, il corrispondente di Torino dice che il governo stesso aveva proposto e sollecitato addirittura questa traduzione. E siamo nel 62. All'inizio del 62. Siamo all'inizio del 1862. Come? Siamo nel Piccaso. Innamorato del governo di Piccaso. L'opera del Lesci trova proprio questa notizia. Siamo nel governo di Piccaso. Quello che sul giornale vuol dire che la notizia è proprio di Luz. E poi è molto interessante anche questo San Mazzano, di cui abbiamo fatto il nome, era fratello di un vescovo di dove? No, lui era arcivescovo di Efeso. Lui era arcivescovo di Efeso, aveva un fratello. Fratello era molato a Torino, mi pare, no? E entrambi fratello mandava le lettere al vescovo. E addirittura indica un indirizzo riservatissimo, e si potrebbe quasi dire segreto, ai quali Dellinger avrebbe potuto far pervenire le sue risposte, per evidentemente quello che era un tentativo che faceva di riconciliazione col Papa. Del Sella ho già detto, e non solo, ma non dobbiamo dimenticare che c'è stato un pronunciamento a livello universitario. Allora, anche a Feltre del liceo, sì, del professore anche a Feltre, ma vennero, alcuni hanno firmato un pronunciamento a livello universitario e sono tutti gli studenti, anche voi, e anche gli studenti, significa che insomma tutto questo, insomma, aveva avuto una certa, questi due avevano avuto una certa circolazione. Certo, siamo sempre nel periodo dal 69 fino al 72, il momento più importante. C'è però ancora un'altra cosa da osservare, la Prato nel 74, in quella lettera di cui si parlava, che è andata poi l'originale, è introvabile, scrive a Dellinger domandando dei consigli, perché in quel momento dinanzi alla Reichsrat a Vienna erano già state presentate le leggi confessionali riguardanti i rapporti Stato-Chiesa, e domanda di avere dei consigli perché Dellinger aveva già avuto esperienza di quelle che erano state le leggi in materia di rapporti Stato-Chiesa approvato nel Reich tedesco e specialmente nella Prussia. Ma la Prato può essere ben un caso singolare perché, come era stato rilevato, qui il Trentino rappresentava un poco un momento una zona di collegamento, di interrelazione tra mondo culturale e politico tedesco e mondo culturale politico italiano. Adesso la notizia che è uscita, che io sinceramente non conoscevo, che bisognerà che la sala la veda sicuramente, e queste le lettere che ci sarebbero di Prota Giulmeo dirette all'estero, mi pare di aver sentito nella polifonica a Londra, sono a Londra ormai, allora, perché vabbè, per dopo, per quando lavorerai successivamente. Soprattutto Giulmeo che è di Napoli, vabbè, il Gleton ha avuto nella sua vita e nei suoi interessi molta attenzione per quello che era la situazione dell'Italia meridionale. E aveva anche molta, come è stato confermato oggi dal professor Consenius, molti interessi a mantenere dei rapporti cordiali con il papà. C'è quel documento importantissimo che è stato pubblicato una volta sola ma senza commenti dalla Nuova Antologia, credo nel 1898, di un colloquio che Gleton ha avuto con Pio IX nell'ottobre del 1866, subito immediatamente dopo la guerra, la terza, quella che noi chiamiamo terza guerra d'indipendenza, dove con il Papa parla proprio della possibile ulteriore sussistenza, siamo nel 66, della possibile ulteriore sussistenza del potere temporale dei Papi. Questo proprio Giulio ha torto a ragione, vedendo la propria iniziativa coincidente con quella dei vecchi cattolici, ha torto a ragione, questo va discusso, ma sicuramente nelle sue manifestazioni ritiene di essere a ragione, collega questo movimento di riforma della Chiesa che viene veramente dal clero campagnolo, dal piccolo clero, non dagli ambienti intellettuali o dagli ambienti borghesi, come è stato detto, come erano quelli dei vecchi cattolici. E qui c'è, ma non solo a Napoli, dove anche a Firenze, anche ci sono alcune di queste, in Sicilia, alcune di queste organizzazioni riformatrici all'interno della Chiesa che vengono dal basso e che, a volte a ragione, si dichiarano però, coincidenti con quella che era stata l'organizzazione dei leghi cattolici nei paesi di lingua tedesca. Altro elemento, a mio avviso, che ci conforta e ci testimonia che queste dottrine e questa figura del Dellinger non è rimasta soltanto limitata esclusivamente agli ambienti intellettuali e agli ambienti politici, ma a volte la ragione è stata presa quasi come uno stendardo, una bandiera, un simbolo per altri elementi, per altri movimenti riformatori provenienti dal basso. Qui siamo proprio qui il problema è complicatissimo, perché probabilmente questi preti campagnoli, questi preti specialmente dell'Italia meridionale, si attendevano dal governo romano, dopo la presa di Roma, un grosso aiuto sul piano spirituale e anche sul piano organizzativo, perché le condizioni della Chiesa dell'Italia meridionale erano quelle, erano coincidenti, erano con il regime borbonico e erano tutti i fattori che hanno probabilmente promesso questa specie di rivolta spirituale. Si guarda allo Stato, ad uno Stato che deve aiutare una riforma interna, che viene dal basso, una riforma interna dei credenti, una riforma interna dei fedeli. E Napoli, Firenze, poi anche San Veneto, Sanremo, a Sanremo, poi dove? Mantova. A Mantova, eccetera, ci sono alcune di queste iniziative che sono interessantissime. La cosa è una addirittura come la faccendata a livello aziendale. Il Geschlossen. Arriva a un livello di tutto questo, se si chiude, altrimenti che si inserisce proprio, diciamo così, nello svolgimento di una tesi, invece che in un rapido contributo però, alla discussione, tutto questo mi porta a concludere che non bisogna sopravvalutare l'influenza del Dellinger nell'Italia risorgimentale. Ma non bisogna però neanche sottenderla, non bisogna neanche ignorarla, finché i rapporti sono fra il Sella, che viene nominato, viene dichiarato doctor honoris causa, e il Dellinger, la cosa non commuove, almeno da un punto di vista della storia del risorgimento, ma non vado più in là. Nel momento in cui vedo però che in tutta quanta la penisola si creano questi centri, che si riferiscono idealmente a torto o a ragione, perché i programmi sono diversi, evidentemente, ma prendono il Dellinger e i vecchi cattolici come simbolo, come bandiera, come emblema della loro ribellione interna, allora io devo dire che una certa influenza, più di quanto si possa ritenere normalmente, il Dellinger nella società italiana l'ha avuta. Domando scusa se sono stato un po' lungo. Questo per dire il pessimismo. Secondo me, si dovrebbe fare, cominciare il discorso facendo una storia di come veniva inteso Dellinger. Cioè, secondo me ci sono dei. Lei ha usato giustamente la parola bandiera simbolo, no? Ecco, cioè viene considerato come un punto di riferimento a queste manifestazioni. Io direi che prima di dire che c'è un'adesione a Dellinger bisognerebbe vedere se hanno inteso bene Dellinger, no, se Dellinger li ha considerati suoi. No, guascio. Ora io non ho trovato nessuna testimonianza in cui Dellinger diciamo, riconosce o prende in esame in considerazione. Non ha mai cercato neanche di portare questo movimento al di là delle Alpi. Ma da questo punto di vista questo testo qui è abbastanza interessante. Questo qui. Perché proprio Dellinger dice no, nessun scisma. Cioè, non credeva che fosse possibile in Italia. C'è il caso di Campello, che è significativo, no? Questo canonico, il canonico della Basilica. Il medico di Campello, il conte Campello. Campello, infatti, sì. A un certo punto, dopo parecchio tempo, scrive segretamente a Dellinger, eccetera, poi esce dalla Chiesa. No, ma almeno a quello che mi risulta è uno studioso che ha visto l'archivio Campello a Spoleto, ha detto che non c'è traccia di lui scrive, Dellinger due volte, ben due volte, ma sì, non risponde, non prende contatto. Anche se lui poi si questo era un fondatore di una chiesa nazionale italiana. Questo sarebbe un po' difficile dire, perché come ha sottolineato la sala, noi siamo in presenza di un corpus abbastanza completo delle lettere di italiani al Dellinger, mentre per le lettere del Dellinger agli italiani noi dovremmo andare a cercare Mi dai ancora un secondo? Va bene, professore. E volevo dire un'altra cosa, che è quello che è molto interessante in questi anni del 70, 71, 72, è il modo in cui attraverso questo problema delle relazioni del Dellinger con politici e intellettuali italiani e viceversa, si prospetta il problema dei rapporti Italia-Germania. Questo è veramente interessante, sia in quelle lettere dell'Università di Roma, sia come è stato ricordato qui dalla sala nella lettera del Sella al Dellinger. Si insiste su questo fatto che c'è un parallelismo di sviluppo politico, che questo è conosciuto abbastanza ovvio, tra la formazione dell'unità nazionale italiana e la formazione dell'unità nazionale germanica. Si va al di là, certo con uno spirito corrispondente all'epoca e allo spirito laico dei tempi, che poi si approvi o non si approvi, questa è un'altra cosa, è corrispondente allo spirito laico di sé. In Italia si sta facendo questa battaglia per la laicità della cultura, in Germania si sta facendo questa libertà dal conservatorismo ecclesiastico. Questo è il senso di queste accenni che si fanno nelle lettere. E da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista del compimento dell'unità nazionale, deve esserci un parallelismo amichevole tra lo sviluppo della cultura e della politica italiana e lo sviluppo della cultura e della politica tedesca. Anche questo dal punto di vista della storia risorgimentale, noi parliamo da questo punto di vista, non dal punto di vista teologico o d'altro, anche questo mi pare che non sia un elemento vero da sottovalutare. E un'ultima questione, il Dellinger, assieme al von Reumann, è quello che insiste sul fatto che l'Italia non è soltanto quella del Colosseo o quella di Cesare, e non è soltanto quella dei fatti e del Medioevo, è anche l'Italia del Risorgimento, e che la Germania deve conoscere anche questa Italia del secolo XIX. Questo mi pare anche abbastanza importante per completare il quadro di queste interrelazioni. Posso rispondere? Certo. Grazie per le sue precisioni e per le vie che ha aperto, vie di ricerca che ha aperto. Io vorrei ancora ritornare a parecchi punti. Primo, domandando alla signora Sala, si è trovato più che ha già indicato il Lösch nel suo, ha trovato più traduzione in italiano. Ancora oltre di quelle di Lösch. Ho trovato la traduzione del compendio di storia ecclesiastica, sì, del 1842 fatta a Milano, e la traduzione del libro da Spastum. Quello del 1990, sì, sì, sì. Fatta nel 1900, stampata nel 1900, sì, sì, in Svizzera. Grazie, grazie, grazie. La traduzione italiana. Grazie, sì, sì. E c'è anche, non abbiamo parlato di questa traduzione ultima di Daspastum, c'è scritto che ci risulta, quindi nel 1914, ci risulta che in Italia si voglia fare un'edizione delle opere più importanti. Poi, se sia stata fatta, questo non è. Non penso che sia stata fatta perché il libro non è importante. Io ho un ricordo di lettura, allora, che anche Pasaglia si interessava a questo, ma sì, non lo so più. Poi e un'altra, e c'è anche noi abbiamo, non abbiamo parlato di questo, Gellinger fu scritto come giovane, giovane professore, una introduzione, una considerazione su Dante, e è ritornato a Dante dopo nelle sue conferenze accademiche, Dante come profeta, che dal profeta, e poi ha scritto un testo per l'illustrazione di Peter von Cornelius, di sì. Allora questo entrerebbe ancora nell'argomento. E poi lei ha parlato di dei vecchi cattolici come bandiera per questi movimenti italiani che vengono dalla base piuttosto che dell'alto. Sì, io non potrei dire qualche cosa di competente su questo, ma vorrei dire soltanto che il prota Giulei fu un poco in tutte le direzioni andava, anche mentre che i vecchi cattolici vogliavano restare cattolici, i veri cattolici, i romani sono stati traditori, il protea Giulio andava verso i protestanti, tutti, mentre che gli altri avevano ragione di affermarsi cattolici c'è una protesta sociale autentici. In queste organizzazioni dell'Italia meridionale c'è una protesta sociale. Sì. Una delusione riguardante proprio la divisione dei beni della Chiesa, non l'abbiamo trovato, vero? Protesta sociale, il piccolo clero. E dopo prendo questa bandiera, ha ragione, sì. E abbracciano questa bandiera, ma c'è una protesta sociale in questo. Sì. I miei ricordi sono buoni, c'è stato l'anno scorso un articolo sui vecchi cattolici italiani nella rivista dei vecchi cattolici, allora, che si pubblica a Berna, che si chiama Internazionale Kirchliche Zeitschrift, IKZ. Non è buono, l'articolo non è tanto buono, ma si trova lì nell'80 mi pare, allora potrebbe dire. E ancora adesso, forse movimento di protesta anche, c'è una comunità vecchi cattolica in Italia, io ho dimenticato dove si trova adesso, ho il ricordo che quello è il prete, dimentico per disgrazia anche il nome per il momento, che ho incontrato 2 o 3 volte, è un ex religioso cattolico che si è sposato e che mantiene con la sua famiglia e nella località un cisma, allora, che è legato, di importanza soltanto locale, dice che ha 3.000 fedeli, che è collocato sulla giurisdizione del vescovo vecchio cattolico di Berna. Esiste, e potrei dare un indirizzo in Italia, oggi, e mi diceva personalmente che ci sarebbe stata una tradizione un poco anti-romana in quella parrocchia o comune, non so, non è molto importante. Il presidente del sinodo si trova a Milano, il dottore tale, non ricordo più il nome, mi dispiace che ho dimenticato di darvi. Se vi interessa, allora posso inviare informazioni. Sì. Poi sarebbe da dire che vedo un punto di interesse molto speciale in quello che lei ha accennato, professore, sapere prima l'eco che Dellinger ha avuto in Italia, anche se limitate la ricerca sul punto di vista del risorgimentale, ma sarebbe abbastanza importante. E poi quello mi interesserebbe di più in un certo modo, perché che è l'immagine d'Italia che Dellinger si faceva dell'Italia, che e come questa immagine corrispondeva alla realtà, anche dal punto di vista risorgimentale, perché ultimamente il Weber, che ha pubblicato la gran ricerca sui cardinali sotto Pio IX, con una sostanziale ricerca sul potere temporale, sulla fine del potere temporale, dice che si comportano molti opinioni sullo stato pontificio, che la situazione economica e amministrativa non sarebbe stato tanto male come la dice la propaganda generale del tempo, che dalla quale anche Dellinger sarebbe stato vittima in un certo modo. Non so se mi sono espresso. Allora, in quanto riguarda lo stato pontificio, tutti questi pamphleti, sono forse non so quanti, ma una cinquantina, sono state molte pubblicazioni che dice che anche Dellinger è stato vittima di questa. Allora sarebbe interessante quale immagine aveva Dellinger della situazione politica italiana con rispetto soprattutto del potere temporale. C'è stata qualche cosa a Perugia. Allora, no. Sì. E poi ci sarebbe forse interessante, in generale si potrebbe dire che Dellinger, al mio parere, non aveva questa intimità del contatto personale con gli italiani, tale che l'altro storico della Chiesa l'ha avuto, il Franz Xaver Krauss, che è stato veramente un italianizzante, traduttore anche esperto di Dante in tutta la sua vita durante, ma legato con Stoppani, con i Rosmignani e con tutto, c'è ancora il Weber, che adesso sta preparando un'edizione degli articoli pubblicati e non pubblicati di Krauss, che sono già in impressione. Allora mi pare che ha lavorato 2 o 3 anni su questo argomento e ha fatto anche questo, vuole interessare, uno studio su Krauss in Italia, pubblicato nell'Istituto Tedesco di Roma. Sì. Come questo può interessarla. Sì, questo è tutto qui. Io non vorrei più entrare nell'argomento del rapporto del conte Barbolani, come si chiama, di Cesarpiana. Voi aprite il testo, ma se vogliamo parlare ancora dell'ecumenismo, allora... Sì, se no non c'è più tempo. Sì. Anche se sarebbe interessante fermarsi su queste altre tematiche, ma dopo schiacceremo la seconda parte. Sì. Io devo confessare che per questo non un testo elaborato in italiano, e che adesso allora... do un sommario di un articolo che ho fatto parecchi anni fa sullo sviluppo ecumenico di Dellinger, in quanto riesco di fare. Non so adesso che cosa abbiate come testi testi che, perché ci manca un libro molto importante qui, siete assai ben fornito, ma ci manca ancora un libro di kleinen Schriften, i piccoli scritti di Döllinger, dove sono articoli allora che toccano il nostro argomento. Allora, il primo, Döllinger e la sua conoscenza del protestantesimo, la sua, come ha incontrato per la prima volta il protestantesimo, è cresciuto in un ambiente cattolico, completamente cattolico, si può dire, perché era città vescovile, in Bamberg, piuttosto anche Würzburg, e siamo soltanto all'inizio dell'apertura di queste città al protestantesimo. Allora l'ha scoperto, i primi contatti sono di letteratura per i convertiti al cattolicesimo nel periodo del romanticismo. Sono Stolberg, Schlegel, Werner, questo periodo. E come giovane studente aveva letto un pamfleto polemico di Luther, di Lutero nel 1817, un pamfleto poco simpatico, Das Papsttum vom Teufel gestift, il papato quale è stato fondato per il diavolo. E il biografo Friedrich dice che questa prima lettura gli avrebbe lasciato un'idea negativa del protestantesimo. Non so se questo è vero, ma si vede che nei primi pubblicazioni Döllinger dice che la reazione di Lutero fu giusta in quanto reagiva contro la vendita delle indulgenze e mostra una certa comprensione psicologica per le prime reazioni di Lutero. Questo in una pubblicazione, una edizione del Handbuch der Kirchengeschichte che ha curato nel 28. E nella propria storia della Chiesa che ha scritto fra 33 e 38, Döllinger sviluppa le idee che aveva già nel primo Handbuch di Kirchengeschichte, senza veramente allora entrare nell'argomento di Lutero. Ci torna dopo. Vi ha colpito forse nell'esposizione in generale che Döllinger non è mai stato un uomo scientifico dispassionato, ma che ha preso una parte attiva nella vita politica o ecclesiastico-politica del suo tempo, e per questo anche le sue pubblicazioni, in quanto toccano problemi della coesistenza delle confessioni, portano un rifletto di questa opzione fondamentale. Allora, c'era soprattutto la questione dei matrimoni misti e Dellinger nella questione dei matrimoni misti in 1931 sottolineava il punto di vista cattolico e non prendeva nessuna riguardo verso i protestanti. Ho già dominato un altro aspetto, il caso della genuflessione dei soldati nella processione del Corpus Christi. Anche qui Dellinger prende il punto di vista della difesa dell'ordine militare e fa questo con molta verba polemica quando risponde al superintendente di Bavaria, dice che io posso leggendo Lutero e la letteratura che ha prodotto, io devo prendere le precauzioni che qualcuno che passa attraverso ein Misthaufen, così. Sì, e per dire sottolineare lo spirito polemico di questo periodo. E anche l'opera maggiore di questo tempo, la storia in 3 volumi sulla riforma, pubblicata fra 1946 e 1948, è il primo trattamento cattolico di questo soggetto nei tempi moderni. In un certo modo è una marca per la massa dei documenti usati non nel senso tecnico della scienza, ma accumulati e per la tendenza di far parlare i documenti per se stessi. Ma non ci fu una certa naività, ma ci fu anche lo scopo in questo di accumulare testimonianze negativi per testi, per persone che avevano vissuto fatto delle esperienze personali nel protestantesimo e che ne avevano scritto o parlato di una maniera negativa. Il terzo libro non è finito perché Dellinger, entrando in politica, andando a Francoforte, doveva lasciare l'affare incompiuta. La peculiarità in questo libro è che dà un trattamento sistematico della riforma e dice che il più importante è la dottrina della giustificazione. Dellinger pensa che questo è il punto essenziale nella mente di Lutero, che è la base del suo argomento, il motivo della separazione e il principio della sua religione. No, pensate che Lutero fu giusto in collocando la dottrina di giustificazione nel mezzo del suo sistema, ma gli faceva il reproche, l'improvero, che per la dottrina dell'imputazione aveva corrotto la coscienza dei protestanti. Questo è un sommario della sua visione del protestantesimo luterano in quel tempo. E ancora quando fu vecchio, questo problema lo preoccupava e ripeteva lo stesso argomento contro Lutero. Mentre che Lord Acton, in discussione con Acton, pensava che Lutero fu condannabile per la sua posizione nella guerra dei contadini. Si vede, visto di oggi, che l'interpretazione di Dellinger della dottrina di imputazione è troppo estrinseca e che non aveva conoscenza delle implicazioni profonde di questa dottrina, ma questa è una riflessione di oggi e non del tempo. Forse in questo momento posso dire che quello che gli anglicani, che non avevano questi problemi come la riforma di Lutero, faceva gli anglicani simpatici a Dellinger e Dellinger anche simpatico agli anglicani. Già ho parlato della sua amicizia col Gladstone, che fu a cuore teologo e che veniva nell'anno 41 a Monaco per discutere sull'Eucaristia col Dellinger sulla presenza reale.